Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farli scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Canzone del complesso del primo maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con piercing che non è tanto bella. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio. I grandi sindacati hanno la loro responsabilità, i grandi sindacati, CISL, UIL, CGIL, hanno la responsabilità che hanno avuto i partiti nella disintegrazione del lavoro in questo paese. Elimina i sindacati, per esempio, che sono una struttura vecchia, sono una struttura politica, con i capi come i partiti politici. Non c'è più bisogno del sindacato, perché le aziende devono tornare a essere di proprietà di chi ci lavora. Porca puttana, che è un'idea che sembra del passato ma del futuro, perché negli Stati Uniti e in Germania è così. Balcone, ma siccome non sono croato, è un balcone balcano. Oggi è il primo maggio, se non te ne sei accorto, caro Parenzo. Noi lavoriamo, ma c'è anche la fiera delle banalità. Sempre. Ma siamo in diretta? Sempre, sì, siamo in diretta, siamo in diretta. Ma perché? Sì. Ma non hai una vita, una roba, una vacanza? No, non ce l'ho, hai ragione, non ce l'ho. Un amore omosessuale. Cioè, prima non ero in macchina con un tassista, Bari, sì. 43, che dalla stazione Tiburtina mi ha portato a casa mia, che non sì. dico dov'è, sì. altrimenti trovi in ottavo sotto, il quale mi diceva: dottor, digli a Cruciale una cosa, quella è la testa del cazzo della Lazio. Ma perché ogni volta che parli al telefono si sente il telefono un rumoraccio tremendo? Perché solo tu? Perché solo? Io me lo vorrei chiedere, perché solo tu? Ce lo chiediamo tutti qui stupiti. Ogni volta che prende il telefonino nelle vicinanze di casa si sente uno stridio pazzesco, un rumoraccio infernale, una cosa pazzesca. Ma perché? Fino a quando? Sono 3 anni che lavoriamo insieme. Non sei stato ancora capace di darmi un cellulare, un apparecchio, una cosa... No, ma non c'entra niente, ma il problema è che non c'entra niente, capito? Perché è un problema che riguarda soprattutto te, secondo me. Scusi, me lo porta un caffè per cortesia, caro, grazie, con 2 di zucchero. Dicevo, primo maggio, ovvero la fiera il mio delle... cameriere cingalese, in nero, chiaro, ovviamente. Chiaro, primo maggio, ovvero la fiera Mescola, subito! Scusami. Primo maggio, ovvero la fiera delle banalità, il grido di lavoro, lavoro, lavoro, però nessuno dice come, quando, perché. E intanto il PDL pensa di essere una sorta di monocolore brunetta e continua a dire via l'IMU, addirittura Berlusconi dice la restituzione del 2012. Non siamo, io voglio dire in questo caso, compatisco il povero Letta, e voglio dire agli amici del PDL, non siamo in un monocolore brunetta. Io capisco che è molta tattica, si chiede il massimo per ottenere qualcosa, per carità, ma non siamo in un monocolore brunetta. Certo. Non avete vinto le elezioni, non le avete perse, non le ha perse nemmeno il PD, siete diciamo pari e patta. Però lucido. Non è che ci può essere il monocolore brunetta, Berlusconi. Lucido. Berlusconi. Lucido. Sia sull'abrogazione dell'IMU per il futuro, sia sulla restituzione. Non potremmo essere parte di un governo che non attuasse queste misure e non potremmo nemmeno sostenere dall'esterno un governo che non le attuasse. Beh, adesso voglio dire, non potremmo essere parte di un governo, ma siete già parte di un governo, caro Berlusconi. Avete votato la fiducia, non è che adesso la potete togliere perché l'IMU è difficile restituire quella del 2012. Brunetta! I patti non si mettono in discussione. Ripeto, se c'è la cancellazione dell'IMU dal 2013 e la sua restituzione, la restituzione di quella pagata nel 2012, c'è il governo Letta. Se non c'è questo, non c'è il governo Letta. Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire. La Zanzara 800240024, vergognoso striscione al io sono mi picco di non essere mai andato né al concerto del primo maggio né a una manifestazione per il primo maggio. Sono estremamente sono estremamente contento di questo. Me ne vanto. Me ne vanto. Io se non avessi avuto incombenze familiari ci avrei portato pure mia figlia al concerto del primo maggio. Pensa come sei combinato. Perché pensa come sei ridotto. Civiltà. Il primo maggio nasce negli Stati Uniti, peraltro, con le grandi rivolte operaie. Va bene, stai tranquillo, stai calmo. Allora, spero che vorrai dedicare questa puntata ai martiri delle prime rivolte e che vorrai chiamare degli esperti di storia del diritto del lavoro. Sicurissimo, aspetta un attimo, stai zitto un attimo. Dell'economia. Stai zitto. Il vergognoso striscione di Torino, dedicato a Preiti. Qualcuno ha dedicato uno striscione, gli Autonomi, mi pare, cercando di cacciare gente del Partito Democratico dal corteo. Capito? Un tale Lele Rizzo di un centro sociale dice: è la vergogna di Torino e quella parte di corteo rivolto al PD, quella del suo partito non merita di stare qui. Hanno fatto una campagna intera parlando di cambiamenti e ora c'è il governo dell'inciucio. Il primo maggio è per voi, con la faccia di Preiti. Quello di Preiti è il gesto di chi non Mamma ce la fa mia. Più. Se si fosse suicidato non avrebbe fatto neppure notizia. Noi siamo al fianco di chi si ribella, cioè sono al fianco di uno che ha sparato a un carabiniere. Si vergogni questo Lele Rizzo. Ma non Rizzo. Non adesso ci minaccino pure. Adesso ci minaccino pure come fanno di solito. Si vergogni. Ogni tanto anche il presidente della Camera, per carità, non è allo stesso livello, ma non voglio paragonare. Fermato, no, non l'hanno ancora fermato, ma non lo devono fermare. No, c'è libertà di espressione anche su queste cose, no, in Italia. No, questa è istigazione all'odio, devono portarlo in questura. No, assolutamente no. Un attimo solo. Portarlo in questura per i documenti per un po'. Un attimo solo. Laura Boldrini, presidente della Camera, sostiene sostanzialmente che la crisi trasforma le vittime in carnefici. Beh no, la crisi non c'entra nulla. Quando uno non è vero, è una buffonata, una falsità totale. Quando uno prende una pistola e la punta dritto alla testa di un carabiniere, trattasi semplicemente di delinquente, non c'entra niente. La crisi, la disoccupazione, non c'entra nulla. Ma non lo diceva in riferimento a quello. Come no? Lo diceva in riferimento a quello. No, adesso vuoi assolvere il presidente della Camera? Va bene, assolvi il presidente della Camera. A Portella della Ginestra. Assolvi il presidente della Camera, va benissimo. A Portella Ginestra, il bandito Giuliano. Dedichiamo qualche minuto alla storia del bandito. No, lascia perdere. Abbiamo da fare, stai tranquillo, abbiamo da fare. Ci sono due ore facciamo e mezza. Facciamo una trasmissione che ha un valore anche un sono po' sociale. Sono le 18:40, non mi fare innervosire subito, ti prego. Portella della Ginestra, l'episodio. Non mi fare innervosire subito, perché c'è già il governatore del Veneto che mi ha fatto innervosire sul caso Chienghe, il ministro dell'integrazione, su cui i leghisti, come sappiamo, hanno detto parole incredibili nei giorni scorsi, no? Anche lo stesso Borghezio qui alla Zanzara. Sì, però Borghezio si sa, Zaia. Ma il governatore Zaia del Veneto ha detto una cosa pazzesca oggi, pazzesca, cioè che il ministro dovrebbe fare visita alle donne stuprate, no? Alle donne stuprate da un ganese, come se gli stupri fossero un'esclusiva della gente di colore. Bravo. O degli extracomunitari. Caro Zaia, che ti picchi di essere un moderato, dovresti chiedere scusa. Crozza il partito di Letta, PDL. E se fa il nostro programma, lo votiamo e poi gli diamo anche un croccantino. No, ma scusi, come il vostro programma? E il loro, quello del loro partito? E quale è il loro partito? Il partito, che partito? Il partito di Letta. Il partito di Letta è il PDL? No, no. Partito di Letta. No, è il Partito Democratico. Partito Democratico. Partito Democratico. Ma mi faccia così, ministro. Il Partito Democratico, mi aiuti. Ma come l'aiuti? Cos'è il Partito Democratico? Il Partito Democratico è quello che ho fatto le primarie, che hanno votato 3 milioni, tutti in coda, esatto. Primo partito, quello che adesso fa quello che vuole Berlusconi? Sì, in effetti sì. Quello noi non lo chiamiamo in modo diverso, lo chiamiamo... E come lo chiamate? PD. Cioè? Partito Domato. No. Stolto. Vuole un croccantino? No, grazie. Ciao allora. No. Siamo qui. qui, siccome a noi piacciono le persone controcorrente, si contano sulle dita di una mano quelli che hanno, non hanno votato la fiducia nel PD al governo Letta, nonostante il fatto che molti, molti diversi si fossero espressi prima per la non fiducia. Tra questi la senatrice Lucrezia Ricchiuti, Partito Democratico, From Desio. Buonasera. Buonasera. Come va? Come va? Bene. Bene? Adesso sì. Adesso sì, perché prima come stava? Male? Ho passato dei giorni non certo belli. Senta, senatrice, l'hanno emarginata per lei volte, è uscita dall'aula, giusto? Sì. Perché non ha votato direttamente contro? Perché non volevo distruggere definitivamente il mio partito. Vabbè, non è che il suo voto contro avrebbe distrutto il partito. Insomma, non sarebbe stata... Forse voleva salvare se stessa un po', perché il voto contro la metteva un po' in difficoltà, no? No, beh, io l'avevo detto alla riunione abbiamo fatto una riunione con tutti i senatori del PD e io lì ho espresso il mio voto, ho espresso la mia idea, cioè quella che io non avrei potuto mai votare un governo con col PDL, quindi lo sapevano perfettamente. Posto che nessuno si sarebbe mai immaginato di votare un governo col PDL, no? Lei ha citato il caso Mangano, sì. Cioè io non posso votare per un partito dove c'è Berlusconi che ha tenuto in casa Mangano. Ora mi sembra, detto sinceramente, non è che uno può rifarsi a Mangano, magari c'è qualcosa di più pesante, o no? No, io avevo fatto riferimento a questo perché facevo riferimento alla mia storia politica. Cioè che è quella di... La mia storia politica è quella di aver combattuto nella mia città per... Sì. Comunque la legalità, comunque Desio è un paese dove c'è una locale, sì, di 'ndrangheta e dove la 'ndrangheta... storia antica di decenni. Cioè ci sono legami col PDL e l'Andrangheta, dice lei? No, al partito c'erano legami a livello politico e sì, quindi nelle intercettazioni sono venute fuori. Col no? PDL? Col PDL, sì, con esponenti del PDL che non sono stati indagati, che però conoscevano e si relazionavano da anni con questa, sì, famiglia. Cioè lei ha la sensazione, siccome va dalla citazione di Mangano fino alle relazioni pericolose locali di gente del PDL con l'Andrangheta, lei ha l'impressione che il PD si sia alleato con i mafiosi? Potenziali criminali. No, credo che alleandosi con il PDL noi tutte quelle leggi che sono le leggi per cui abbiamo fatto anche la campagna elettorale, no? In cui pensavamo sì, di fare, quindi la legge anticorruzione, il nuovo codice antimafia, l'ineleggibilità di Berlusconi, ripristinare il falso in bilancio, non verranno neanche prese in considerazione. Beh, questo mi sembra evidente perché Letta manco la citate, per esempio. Esatto, cioè, non c'erano neanche nel programma la parola mafia nel programma, insomma, nella relazione che ha fatto Letta sia alla Camera che al Senato, Letta, non c'era. Insomma, non mi sembra il primo problema no, di questo nuovo governo. Però diciamola tutta, invece per me lo è. Sì. Quindi allora se vogliamo combattere la mafia seriamente, allora lo mettiamo come primo punto della relazione e del programma. Sì. Altrimenti sono le solite chiacchiere, quindi fra 100 anni saremo qui ancora a parlare di mafia, di 'ndrangheta, di SID e del resto. Scusi, lei ha l'impressione di essersi, però diciamolo fino in fondo, il PDL è un partito, secondo lei, contiguo alla mafia, cioè perché altrimenti non si capisce. Berlusconi... Non è che contiguo alla mafia, io ho detto che Berlusconi ha tenuto in casa sua Mangano, che era un boss della mafia. L'amico intimo di Berlusconi era Dell'Utri mi sembra che sia stato condannato per questo, sì, quindi ho i miei dubbi, siccome ritengo Berlusconi non solo il leader del PDL ma anche il padrone del PDL, sì, non credo che questo argomento sia prioritario in quel partito. Senta, le fa impressione vedere Alfano che è il delfino di Berlusconi, ministro degli interni, per lei è un colpo durissimo? Beh, certo. Beh, è un colpo durissimo vedere tutto questo governo. Che io ho fatto una campagna elettorale mica per andare a fare un governo con il PDL. Ho capito, però poi sono successe delle cose. I mica ci hanno eletto per andare a fare un governo col PDL. Ma sono successe delle cose dopo, senatrice. Certo, hanno affossato Prodi per fare in modo, ecco, di ma fare i un nomi, governo col PDL. I nomi non sono usciti fuori ancora. Lei no, devono tirarli fuori. Ho capito, ma lei li sa, lei ha al Senato qualche nome. Cominciamo a fare i nomi, perché tutti dicono i 101, i 101, poi ci fosse stato uno che ha detto io so che quello ha votato contro Prodi. Facciamo qualche nome. Secondo lei chi è che ha votato contro Prodi? Chi è che affossò Prodi spalancando le porte al governo con Berlusconi? Questa è una bella domanda. A saperlo, so, chi sono? A saperlo, voi lo sapete. Fanno un sacco di illazioni. Io quando i senatori e i deputati hanno votato, mica ero lì. quindi posso immaginare, si sentono tante cose. Ma lei ce l'ha una lista? Se l'è fatta una lista a casa con nomi e cognomi, la sua lista? Io non appartengo a nessuna corrente. Un pizzino, no, la capire. No, ma lo so, ma la sua lista. Le persone a chi sono collegate, perché lì sono tutti, non tutti, parecchi collegati. E fanno parte di correnti. E quindi io non appartenendo a nessuna corrente. Io no, ma la sua lista personale, la sua lista dei traditori, diciamo, di questi 101, come li chiama lei questi 101? Franchi traditori. Franchi traditori, vabbè, ne hanno dette, ne hanno dette di peggiori, contro questi qua, cioè. Vabbè, devono dire, devono saltare fuori. Allora, l'altro giorno hanno detto che non era argomento della discussione, che beh, era argomento di congresso, ne avremmo discusso al congresso. Al congresso lo devono dire, anche perché questi qui hanno vinto. Scusi, se Berlusconi diventa presidente della convenzione, lei esce dal PD? Ma per favore, non facciamo ridere la convenzione, ma stiamo scherzando, ma quale convenzione? La convenzione, secondo me, per se devo proprio dire, una buffonata. Ma anche secondo me. Traffico. Ma siete alleati però. Traffico, vabbè, lei non si sente alleata, che ti devo dire? Sono alleati, ma la senatrice Ricchiudi non si sente alleata, tant'è che non ha votato la fiducia, è uscita. Sono alleati, il suo partito è alleato e lei è una non alleata. Traffico. La zanzara. La zanzara che punge nel vivo. Siamo qui con uno degli ultimi giapponesi. Si sente così, senatrice Ricchiuti? Una delle ultime giapponesi? Come una delle ultime giapponesi. Appunto, una delle ultime. Vabbè, sì, ho capito. Insomma, dicevo in generale. Si sente come una delle ultime giapponesi? Sì. La prende a ridere, magari io la caccia. Un pacco con me stesso, magari la cacciano. Che ritenevo giusto di fare. Magari la cacciano. No, sì, non credo. Può essere, qualcuno l'ha detto, vediamo. Sì, l'ha detto Boccia all'inizio, ma non la cacciano. Perché non esce? No, l'ha detto anche qualcun altro. Perché non esce lei? Ma io sono iscritta al PC dal 1979. Vabbè, se non va con, perché non va con Vendola? No, io non sono vendoliana. Io voglio fare il congresso. E voglio Fare la minoranza e rifondare un altro partito. Senta, come un altro partito? Senza nessuno dei vecchi. Senta, senatrice, ma vedere Letta che stringe la mano, ha visto come stringe quella mano a Brunetta in maniera quasi fraterna, no? Un patto d'acciaio con Brunetta, le dà un po' il voltastomaco? Beh, addirittura. E che ne so? Ci vuole un bel coraggio, lui ce l'ha. Lei non stringerebbe la mano a Brunetta? Beh, non è che mi fa schifo Brunetta, scusi. A chi è che non stringerebbe la mano in quel governo? Beh, ad alcuni. Ad Alfano non stringerebbe la mano, signor Alfano, Non avrei da ridere, qui sono. Ma mica c'hanno la rogna, cazzi, però, scusi. Non ho detto niente, ha detto tutto Cruciani. No, ma vuol dire, stringerebbe la mano ai ministri del PDL, lei? Sì, sicuramente sì. Sì, la mano sì, però poi la tira subito via la mano e dà un'occhiata al portafoglio magari, no, scherzo. Esagerate! È una battuta, su, ma la fa vomitare questo governo col PDL o no? Cosa? La fa un po' vomitare questo governo col PDL o no? No, è la Santanchè che fa vomitare. È vero, la Santanchè aveva detto andare con voi mi fa vomitare, mi però fa lo dobbiamo vomitare. Però lo dobbiamo fare per forza. Ma si rende? Magari anche vomitato ieri, chi lo sa. Ma scusi, ma la Santanchè è vicepresidente della Camera oppure insomma la Biancofiore sottosegretario, come la vede? Bello. Adesso li voglio vedere chi nominano come sottosegretari. C'è tutto un movimento, lì si stanno spartendo tutte le. Cioè lei dice, per esempio, torta, ma tra i ministri ci sarà qualche traditore? C'è già qualche traditore di questi 101? No. Tra i ministri? Tra i ministri del PD. Non lo so. Vabbè, non lo so, è troppo facile così. Scusi, la Bonino non può essere traditore. No, la Bonino non ha votato nemmeno per il Presidente della Repubblica. Appunto. Franceschini? Franceschini non lo è. Non lo è, che ne sa lei? Secondo me Franceschiniani e Franceschini non lo sono, anche perché l'avevo sentito con le mie orecchie dire che assolutamente bisognava votare. Comunque mi dica la verità, state col signore del Bunga Bunga, questa è la realtà. Eh sì. E la cosa che cosa. Ma come sì? Cosa le provoca? Beh, io. Riesce a dormire? No, non ho dormito per tre giorni. Ho dormito malissimo per tre giorni, perché dovevo decidere cosa fare e c'è una disciplina di partito da una parte. Sì. E dall'altra c'è la tua coscienza e quindi alla fine io non ce l'ho fatta. Ma ha difficoltà a spiegare, che lei ha figli? Sì, due. Due, ma cosa gli dice? Quanti anni hanno? 1,30 e 1,25. Grandi, sì. Ma sono elettori del Partito Democratico? Per forza, per forza, mica è necessario. Con me cosa vuole che possano fare? E come ha spiegato? Anche se avrebbero votato 5 Stelle. E come ha spiegato che state col signore del Bunga Bunga? No, loro mi hanno mandato un messaggio poco prima del voto, dicendomi che assolutamente io non potevo votare una roba di questo genere. Ah, così, eh? Sì. Comunque lo dica ai suoi colleghi del PDL, state con Dell'Utri, siedi in un governo con il signor Dell'Utri, questa è la realtà o no? Dell'Utri non c'è più. Beh no, però comunque state al governo con Dell'Utri. Con un onorevole che è stato in Parlamento fino a poco tempo fa e che è stato condannato. State nello stesso partito di Dell'Utri. Quindi sono collaborazionisti praticamente questi che sono al governo del PD. Beh, adesso non esageriamo, collaborazionisti, però insomma anche nel PD ci sono i mafiosi. Cioè in che senso? A Melito Portosalvo hanno arrestato non poco tempo fa il sindaco del PD e per anche cui lei dice comuni. Che vuole dire con questo? La mafia non è che è solo nel PDL o solo nella destra, c'è nella destra, c'è nella sinistra, utilizza la politica la mafia. Si sono messi d'accordo insieme, dice lei? Indipendentemente dal colore. Cioè lei dice i mafiosi da una parte e i mafiosi dall'altra si sono messi insieme a fare il governo, no? Ma figurati, non lo direi mai questo, adesso non esageriamo. Esageriamo. No, sto dicendo che che le leggi, io allora in campagna elettorale noi avevamo detto tante cose, tra le quali noi dovevamo fare 4 leggi che ho detto prima, cui la prima è... Ma secondo lei, secondo lei in questo patto di governo c'è un salvacondotto per... Lo possiamo fare? No, ma quello lo sappiamo, non si farà, ma questo è chiaro sin dall'inizio. Però, noi abbiamo detto che l'avremmo fatto. Realpolitik, cinismo della politica, è così, cara senatrice, lo so. Ma qual è il cinismo della politica? Tutto è balle queste qua. E che cosa c'è allora, il salvacondotto a Berlusconi sotto questo accordo, secondo lei? No, cinismo della politica, uno deve... Siccome dicono che se uno è coerente non puoi stare politica, secondo me è esattamente il contrario. Scusi un attimo, ma c'è un salvacondotto per Berlusconi secondo lei in questo accordo? Ma può darsi che ci sia, che l'abbiano già... Con la regia di Napolitano, signor Napolitano. Napolitano è in questo momento il segretario. È il segretario di chi? Del partito. Del partito, dice lei. Sì, ma Napolitano è ancora di sinistra? È ancora di sinistra o no? Ah, che buon segretario, ho visto il risultato, scusi. Cioè, pessimo segretario. Quindi Napolitano... Non è un buon segretario del PD, beh, allora. Ma ha un grande feeling ha un gran feeling con Berlusconi, il signor Napolitano, segretario del PD, no? Non credo. Beh, insomma, come no? Non credo che abbia un bel... avrà rapporti istituzionali, no? Sì, comunque era meglio Prodi di Napolitano, Vabbè, vuol mettere. Che ne so io. Prodi era il presidente ideale. Ideale. Cioè il presidente che io desideravo. Cioè, non c'è paragone, non avrebbe mai fatto l'accordo col PDL, Prodi. Mai. Avrebbe fatto. Saremmo andati alle elezioni con Prodi. Lo so, appunto. E infatti, io volevo andare alle elezioni. In questa situazione si faceva la legge elettorale, tra 4 leggi importanti che bisognava fare. Senta, ma il PD che cos'è oggi? L'economia, poi si andava a votare. Oggi che cos'è il PD? Una scialuppa in mare? Esiste ancora il PD? Il PD è imploso. È una scialuppa in mare aperto. Ma cos'è una scialuppa in mare aperto? Una sorta di. Come il Titanic? Cos'è? Beh, non è più guidato da nessuno. Niente. Quindi ognuno fa quello che vuole. C'è il governo di larghe intese con Letta che è il segretario. Ma scusi, ma Letta dice avete tutti i dimissionari, ma uno che è diventato il vice, che è diventato presidente. Ma appunto avete il vice segretario presidente del consiglio, come dice Parenzo, o no? Oppure non è manco lui di più del PD, Letta? No, Letta è del PD, ma è il presidente del consiglio, che non c'entra niente col segretario. Niente, ormai è un corpo estraneo. Fino a ieri era segretario. Quindi adesso dobbiamo trovare il traghettatore. È un caos. Il traghettatore. È un grande caos. Vabbè, senatrice, la vedo abbacchiata, anche se poi ride ogni tanto, se la ridacchia sotto. Ormai si è arresa Berlusconi, anche lei si è arresa Berlusconi, diciamo la verità. Adesso c'è un governo, quindi si è arresa. Dovremo lavorare per cercare di fare speriamo di non fare quella roba lì dell'IMU, poi ma lo sai chi è il vero padrone del governo, con sta roba dell'IMU, no? Mi pare evidente, no? Chi è? Berlusconi. Giornale Radio, grazie alla senatrice, chiudi. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai. E ancora in casa, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti zanzara. Siamo qui 19-17, anche il primo maggio, caro David. Ti voglio dire una cosa, se uno diceva qualche anno fa che il concerto del primo maggio era una cagata pazzesca, venivi ricoperto di insulti perché ti dicevano sei di destra, eccetera, eccetera. Adesso che qualche sospetto comincia a serpeggiare anche tra i sindacati stessi, Elio, diventa una roba, capito? Un patrimonio comune. Diciamola tutta, è una cagata pazzesca, soprattutto quando sentono, aspetta, soprattutto quando si sentono queste cose. Senti Geppi Cucciari, ti faccio sentire adesso quello che ha detto a proposito del tizio che ha sparato, del tizio Preiti che ha sparato al carabiniere. Senti come l'ha definito, senti, questa è la vulgata comune, no? La vulgata che appartiene anche al presidente della Camera. La vulgata dice che questo qua è un disperato perché ha perso lavoro e dunque c'è quasi una sorta di, no, gli viene dato un alibi a questo signore. Ma che alibi? La Cucciari parla ovviamente di Martina Giangrande, la figlia del poliziotto che l'altro giorno si è preso una pallottola per 1600 euro al mese da uno disperato perché il lavoro non ce l'aveva davanti a Palazzo Chigi. Martina aveva una dignità, una luce. Da un disperato che ha perso il lavoro. Da un disperato che ha perso. Vabbè, hai ragione tu allora, dai su, hai ragione tu, dai. Un pazzo disperato. Ma non c'è nessun collegamento tra la perdita del lavoro, la disperazione e uno che spara sulla testa del carabiniere. Hai capito o no? Se tu chiamassi in questa trasmissione, anziché i soliti mostri, uno psicologo del lavoro, un ancora questo psicologo, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma sei malato? Ma sei malato tu? Sei malato tu? La depressione da perdita di lavoro. Senti, ti aggiungo una cosa, lascia perdere, sei fuori strada. Sei fuori strada, sei un poveraccio fuori strada, cioè stai dicendo delle cose assurde. Allora, ti dico, va bene, hai ragione tu, ti dico anche un'altra cosa. Come fa Barisoni? Hai finito? Chissà perché Barisoni non ha gente in camion che chiamano, perché? Hai finito perché? O no? Hai finito o no? Sei fuori strada, perché hai finito o no? Allora, questo i signore, tra l'altro, oggi ha detto che si voleva suicidare. Cambia versione ogni 3x2, ovviamente, secondo me. Perché è matto, è ovvio. No, beh, appunto, sia chiaro. Si voleva suicidare in albergo. Allora io dico, caro, perché non l'hai fatto? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Senza lavoro l'Italia muore. Alla manifestazione del primo maggio l'appello dei sindacati, di nuovo uniti. Più risorse per l'occupazione e giù le tasse. A Treviso, ma anche in altre città, imprenditori in piazza con gli operai. La crisi ci unisce. Primo maggio nel mondo, cortei e scontri in Turchia e in Bangladesh. Letta, la legge Fornero va rivista, meno rigidità. Occupazione senza risposte, falliamo. L'IMU va superata. Asse con Hollande, la crescita è la priorità. Sull'IMU, primo scontro nella maggioranza. Berlusconi, via la tassa o va via il governo. Duello anche sulla guida della convenzione per le riforme. Il PD verso il congresso che dovrà eleggere il nuovo segretario. Dibattito sulla scelta di una guida pro tempore. E c'è chi propone basta primarie. Prognosi riservata, ma in lieve miglioramento le condizioni del brigadiere Giangrande. Interrogato, Preiti dice, volevo uccidermi in albergo. E sta per entrare nel vivo il concertone del primo maggio. San Giovanni piena, tanta musica ma anche storie di lavoro difficile e applausi per il carabiniere ferito. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Innanzitutto la gaffa di Bonanni, la gaffa di Bonanni, l'errore di Bonanni, sentite, il segretario della CISL. Che le tasse sul lavoro devono essere ridotti notevolmente. E questo ormai in che cosa sei riuscito a trasformarlo, se non vuoi vedere. Com'è che ha detto Bonanni? Me lo fai risentire che si è messo in mezzo Parenzo come al solito? Aspetta. Che le tasse sul lavoro devono essere ridotti notevolmente. Le tasse sul lavoro devono essere ridotti notevolmente. D'altra parte l'italiano del signor Bonanni lo conosciamo, detto. No, ma non è solo questo. Detto con però. Grande rispetto, lo abbraccio fortissimo, non è il suo forte, diciamo, no? Ce n'è un'altra di gas che ha fatto. Che ha fatto? Rendere reato come reato l'evasione fiscale, reato. Sì. Reato penale, ha detto. Manda, quella è un'altra roba clamorosa. Il reato penale, sì. Non si dice il reato, perché il reato è penale. Beh, certo, certo. Reato punto e basta. È l'altra roba clamorosa che ha detto. Vabbè, adesso la troviamo, stai calmo, adesso mandala, la troviamo. Mandala, che è la cosa lì. Sì, adesso la troviamo, stai tranquillo. Rendere reato penale l'evasione fiscale, ma come reato penale? Cosa c'è il da reato mettere, è penale. Cosa c'è da mettere ancora di questa roba del primo maggio, di questa buffonata inaudita del concertone? Che c'è da mettere? Guarda, sì, la camusso e il femminicidio, sì, ma posso dire quello che penso o no, finché me lo fanno dire, o no? Quando i siti del mondo parlano delle grandi novità del nostro paese, invece i siti italiani usano il linguaggio di odio e di razzismo verso la prima ministra straniera del nostro paese. E noi dobbiamo sapere che quel linguaggio è lo stesso linguaggio che c'è dietro al femminicidio e la strage di donne che continua nel nostro paese. No, la strage di donne e il femminicidio sul razzismo nei confronti della Chieng non c'entra assolutamente nulla, anche se ci fosse stato un uomo ministro dell'integrazione, i leghisti, alcuni leghisti avrebbero reagito esattamente allo stesso modo. Ah, poi voglio sperare che non vengano utilizzati denari pubblici, anche se sicuramente verranno utilizzati per vie traverse, perché, e poi uno parla di buffonata, di rito stantio, senti i cori, i simpatici cori che facevano quei signori che stazionavano lì, sotto il palco, senti. Valutazioni politiche in piazza ispirate a un certo distacco in qualche modo anche rispetto alle istituzioni. Nel frattempo ragazzi, abbiamo capito, non ho capito, adesso ho capito, hanno capito anche a casa, ragazzi, placatevi. Berlusconi, pezzo di merda, coro unanime sotto il concerto del primo maggio. Hai capito? Sì. Vabbè, ma questo... uno va lì per dire Berlusconi, pezzo di merda, come allo stadio, piazza, dai, su. Ma come... il lavoro, il concerto per il primo maggio, tu hai capito o no? Ma cosa c'entra? Ma è una dai, piazza, su. Perché non hai letto il saggio di Elia Scanetti? Ma vai a fare il culo, tu hai il saggio. Potere. Abbiamo i titoli del TG3, l'abbiamo dati o no? L'abbiamo già dati. 8-0-0. Sì, fammi sentire gli ascoltatori, stai zitto. Luca da Roma. Ma come si fa a non capire? Ma che non capisco, io capisco che quelli sono dei poveri imbecilli e basta. Luca da Roma, buonasera. Vabbè, pronto? No, posso dire, posso dire che sono dei poveri imbecilli o no? Ma sì, pronto? Ma col primo maggio. Luca da Roma. Sì, pronto? Sì. Sì, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Guardi, se non mi incalza io avrei desiderio di dire una cosa, veloce e rapida. Ma lei può dire tutto quello che vuole, veloce e rapido. Aspetta, ma infatti io conosco la vostra trasmissione e so che siete aperti a qualsiasi cosa. Allora? Volevo dirvi una cosa semplicissima. L'episodio gravissimo davanti a Montecitorio, davanti a Palazzo Chigi, è un episodio che non va affrontato nel modo affrontato una volta trasmissione. Questo perché? Sì, perché allora ci insegni il mestiere, su. No, abbia pazienza. Sì. Le ho chiesto di non incalzarmi. Se me lo fa dire, se no io chiudo la telefonata. Ma lei può anche chiudere, insomma, Luca, non è un problema. Io, no, però lei... Ho capito, ma lei non è che può essere diverso dagli altri ascoltatori. Il trattamento no, è lo stesso. No, non chiedo di essere diverso. Chiedo di appunto. Essere un attimino ascoltato. Ma lei se può... Se lo può fare bene, se no chiudo la telefonata. Vada, parli, si esprima. Ecco, allora, va spostato, non va affrontato nel modo affrontato lui. Perché quando lei dà voce a una persona come l'ideologo della Lega di ieri, sì, che, diciamo... è un fomentatore, un aizzatore di folle, un agitatore sociale, sì, la cosa diventa pericolosa. Vabbè, tutto è pericoloso Becchi adesso, va bene. Luca, grazie. Giampiero da Milano, buonasera. Sì, pronto. Dica. Sì, buonasera, un attimo che mi fermo perché sono in bicicletta. Si fermi, la bicicletta è una cosa fantastica, ascoltare la radio in bicicletta è favoloso. Sì, infatti. Vabbè, allora, niente, io volevo fare un intervento relativamente a che cosa? Senatore Malfrangeli, perché questo signore, questo senatore... Sì, quello espulso, sì. L'espulso, sì, esatto. Al di là del fatto che insomma, ha una proprietà di linguaggio veramente critica, ecco, non da senatore, ma a parte questo, l'immagine che sta offrendo adesso è quella che, secondo me, di un ragazzino di 16 anni che viene brutalmente mollato dalla sua fidanzata e lui si arrabbia, si incazza, fa di tutto, usa qualunque mezzo pur di non essere mollato. Sì, è vero Giampiero, lo sa cosa dicono nei corridoi i signori del i signori colleghi del 5 Stelle, che è sostanzialmente pazzo, quello nei corridoi nessuno lo può dire, ma dicono che è malato, cioè dicono che è disturbato. Sì, sì, sì, lo dicono, ma basta fare due o tre telefonate a persone che frequentano i corridoi della Camera e del Senato e ti dicono: beh, noi pensiamo che quello là è proprio un... Ma è la stessa cosa che dicevano di Barbato. Sì, bene, sì, sì. Comunque, anche al povero Barbato. Esatto, comunque meno male che è stato espulso, perché meglio presto piuttosto che dopo, perché ad una trasmissione a cui ho assistito, nella quale è intervenuto anche lui, lui ha detto: perché io sono un ex lavoratore, questo dice lunga su quello che lui pensa di questa sua attività. Vabbè. Poi una volta volevo dire una cosa, per una volta sono d'accordo con Parenzo, perché quello che è accaduto davanti a Montecitorio è una cosa ovviamente censurabile, una cosa assolutamente negativa, allora? Ma bisogna leggere la storia, e la storia, scusa Crugiani, tu forse non la conosci. Può darsi che non la conosco, sì. No, se lei pensa di poter inserire il gesto di un pazzo che si è sputtanato i soldi al gioco, che forse voleva suicidarsi e poi a un certo punto ha sparato in testa un carabiniere, se lei lo vuole inserire nella storia, lo può fare tranquillamente, ci sono tante storie alternative, come dire, no? Se li è sputtanati soltanto in seguito ad aver perso il lavoro. Vabbè, è sempre il lavoro che si perde, allora, eccetera. Cioè, io conosco gente che perde il lavoro e si rimbocca le maniche per procurarsene un altro. Grazie, Vincenzo da Roma. Grazie, Giampiero. Vincenzo da Roma. Crociani, buonasera. Dica. Io volevo riprendere il discorso di ieri. E che voleva? Volevo sostanzialmente confermarle che il mio sospetto è che Crociani e il Parenzo sono al soldo dei servizi. Bene, la borsa, poi torniamo con questa follia. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Calma, tranquillità, serenità. Siamo come lei, siamo come lei. Devono andare tutti a casa. Siamo ancora qui. Il magnifico governo delle larghe intese, sentite come se le danno di santa ragione Guglielmo Epifani, che molti dicono sarà il reggente del Partito Democratico, termine orrendo che ovviamente i nostri amici camionisti, i nostri amici tassisti non conoscono, reggente del Partito Democratico, signor Epifani e Lara Comi. Difendo Enrico Letta fino alla morte su questo punto, perché conosco la sua serietà. Non permetto che si possa dire cose diverse da questo. No, e ma non sarebbe neanche corretto. Ma nessuno sta dicendo cose diverse da Letta. Io le sto dicendo se Letta ha dato come condizione. Ma scusi, il tema della restituzione dove lo se trova? Lei ha dove lo glielo chiede Enrico Letta nel momento in cui dove lo trova nel messaggio del programma del governo? Adesso scusi. Ma perché deve fare secondo lei il PDL avrebbe dato una fiducia in bianco Letta senza la richiesta di alcun principio? Hai capito? Sì, la restituzione dell'IMU, diciamo la verità, è impossibile restituire l'IMU del 2012, impossibile, diciamola tutta. Letta non lo farà mai, già è difficile trovare i soldi per l'abolizione dell'IMU, se mai si farà. No, figuriamoci sulla restituzione del 2012. No, però devi dare la notizia, intanto il governo Letta che questa trasmissione appoggia e sostiene, perché questa trasmissione appoggia e sostiene questo governo. Questa trasmissione è editorialmente schierata con il governo sei Letta. Sei tu schierato col governo, io no. Sì, è editorialmente schierata con quell'ottima ministra. Allora? Ha già detto che sospenderà la rata dell'IMU di giugno. Ma no, ma hai dato una notizia nuova? Ma che cosa strana? No, ma detta, questa è una roba certa di adesso. Sì. Sul restituirla è una battaglia che bisognerà vedere se ci sono i soldi. Vabbè, ma qui non siamo, ma non stai facendo un'analisi politica, questa è la Zanzara. Ma parla come mangia, come ma chi se ne frega? Flavio Zanonato, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega di quello che dici? Bisogna vedere i conti. Ma non ma noi delle tue analisi politica, questa non è una. Avanti, solito con l'altro mostro. C'è con noi chi la spara grossa oggi, forza! Vabbè, sì, sei già pronto per andare alla Rai. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, con noi il mitico, mitologico Mauro Corona. Buonasera. Buonasera, mitologico no, che non sono ancora scomparso. Beh, lei dice quelli che sono mitologici. Che mi dite cosa mi avete chiamato per vendicarvi? No, ecco l'altro, quello che bisogna tornare alla Terra. Ma che? Alla Terra. Ma c'è dice chi è che bofonchia? Parenzo. Noi lo perdoniamo. Ah, sono io che non perdoni, non ho capito. No, anche lei. Scusami Mauro, ma bisogna zappare la terra. Ma scusami un attimo, tu lo festeggi il primo maggio oppure sei della mia linea? Ma volete pigliarmi per il culo? No, appunto. Il primo maggio è la festa del lavoro, se lavoro non ce n'è più, cosa devo festeggiare? Vabbè, tu ce l'hai il lavoro, guadagni un sacco di soldi con i libri. Io non ho mai lavorato, mi sono divertito, per cui non festeggio la festa del lavoro. E dunque? E dunque, niente, sto qui, aspetto gli eventi, ma non mi infiniamo la festa del lavoro, questa retorica. Bravo. Ma è anche vergognoso per chi non ha lavoro, che quale lavoro? Bravo, quello bravo. Che hanno loro. Vabbè, ma voglio dire, è sempre stata una retorica assurda, dai. Almeno per rispetto a coloro che non riescono a pigliarsi il chilo del pa, stiamo zitti. Non sbandierare come i 150 anni dell'unità, questa bufala che l'Italia non è mai stata più divisa di così, il nord o del sud, il Friuli che va andare in Austria, il Trentino. Allora, basta retoriche pietose. Sì. Ma tu... Come quelli che vanno lì, i salotti che ho sentito prima, Baruffato e Pifani, ma volete fare i politi? Fate volontariato! No, quello... 600 euro al mese a tutti, anche a voi, non ve l'ha ordinato il medico di fare i politici, fate volontariato, se no andate fuori nelle palle. Ma noi che c'entriamo, scusate? No, voi, i politici. Ah, i politici. Sembra che si sacrificano per noi, mamma mia, avevo altro da fare, ma devo aiutare i politici. Innanzitutto, via dalle trasmissioni, basta trasmissioni, giusto? No, ma qualche uno è lì che fa qualcosa, ma andare lì, volete fare i politici, se non fate, andate in TV e fate i conduttori televisivi, basta. Appunto, questi, dico. Questi salotti dove erano lì con i calzini tirati su, a parlare di che? Delle solite cose, senza... Perché devono fare il proprio lavoro, il loro lavoro, non andare lì, tirare via quei salotti lì. Basta televisioni e più radio, Parenzo. No, la televisione per tenere l'italiano, il pubblico, per tenerlo in compagnia. Vabbè, di ma d'accordo, sono stufo di vedere da Ballarò sempre gli stessi, sì. Il calzettino tirato su, e diteli che non accavallino più le gambe nelle trasmissioni, che non è educazione. Vabbè, magari le donne fa piacere. No, le donne, neanche loro. Manco loro. Stai parlando con uno che dice che i giovani devono zappare la terra, firma contratti con grandi case editrici per centinaia di migliaia di euro, e mi fa piacere. Perché voi mi state ancora pigliando, ridicchiando, voi che morirete di... Se l'economia non va, non posso comprarmi l'automobile se non ho soldi. Il problema è il mangiare alla più disperata. Ma lo sapete voi che non c'è gente che non riesce a comprarsi il mangiare. Quindi Stiglitz, se te lo sai fare, intanto sopravvivi. Sì. E verrà così fra 5 anni, che ve la contino quei salottieri del nulla. Scusa Mauro, ma stai Mauro? Zitto, il concerto del primo maggio, che te ne pare? L'hai mai visto te in vita tua il concerto del primo maggio? Ma che concerto di che? Beh, a me lo dici, per me è una buffonata. Ma come? Ma scusa, c'è un concerto di montagne qui attorno, vado a camminare, vado lì a vedere che... Ma io, guarda, ti vorrei abbracciare fortissimo perché... Ma tu ti rendi conto che la pensi come Corona? Cioè io la penso come Corona, in questo caso la penso come Corona, sì, allora sul primo maggio la penso esattamente come Corona. Cioè, allora, cosa vuoi? Un appuntamento fondamentale come questo. Ma quale appuntamento? Ma vuoi capire o vuoi rompere il cazzo? Ma via! Una presa in giro a chi non ha lavoro, basta! Ecco Krugman. Ma ecco che c'entra Krugman? Cancellare? Ecco Krugman. Basta con quello. Cancellare, da organizzare un diverso senza quei tromboni che vanno lì a parlare di lavoro, la gente non ha da prendersi. Ecco qua, il milionario che zappa la terra. Vieni qui, coglioncino, vieni su che ti insegno io, ti metto dentro con la testa, ti insegno a fare l'orto. Vai qua. A fare l'orto. Che ne sai tu che sono miliardario? Vai a fare l'orto. Ma quale orto? Io vado a comprare le cose. Ma vai a fare l'orto. Ma io me ne frego dell'orto. Ma quale orto? Ma io ti piglio calci in culo, hai capito? No, diglielo. Cosa sa se è miliardi quel coglione lì? Lo so, dice che sei milionario. Ma dimmi che venga, andiamo a vedere i miei conti, testa di cazzo, chi è quello lì? Parenzo. Dimmi che venga a vedere, io non mi permetto, non so quanti soldi ha lui, quel coglione Napoli. Parenzo, rispondi. No, voglio dire, Corona, va bene. Non ti fai permetto più di sedermi e andiamo in banca, Claudio, ti faccio vedere i miei conti, ma darmi del milionario quando non lo sai. Rischi ma un cazzo, sei un uomo di successo. Sei un uomo di successo e in più ci vieni a dire di zappare la terra e dici che sei un maggio passivo. Ho detto tu sei un testa di cazzo, ma chi ti ha messo lì? Ho detto che nell'estrema necessità bisogna tornare alla terra. E alla tu terra. Lo terrai subito perché tornare lo vanno in alla terra. Ma se non hai capito, Parenzo, se non hai capito... Senti Parenzo, tu tornerai alla terra solo in forma di morto e basta. Ecco, tornare alla terra, hai capito come Ma perché non ho capito che mai... Cosa vuoi? Ma stai a lavorare, cialtrone! Ma scusa un attimo, se uno pensa che in ultima... Ma non lo pensi neanche tu! Smettila di fargli la sponda! Non lo pensi neanche tu! Io lo penso invece. Tranquillità, serenità. Parenzo, vuol capire quello che gli sa comodo. E certo, è al solito. Ma c'è la gente che crepa di fame, se coltivassi, intanto si salva o no? Scusa, no, che non sai neanche farti scegliere, non coltivi terra. Scusa Parenzo, non ho capito. Se uno quando è in difficoltà, dice Corona, tornasse un po' a coltivare la terra. Ma cosa dici? Per salvarsi? Allora. È chiaro che voi siete quel livello lì. Ma se c'è. Ma. Insomma, sono sta veramente. Io ho capito che fate apposta, veramente. No, che apposta? Ma la terra. No. Zappare la terra. Ma no, tu ti rendi conto? Parenzo, coltivare. Allora, quando fra 5 anni, quando qualcuno, se sei ancora vivo, Parenzo, quando qualcuno ti dirà che lavoro fai, tu rispondi, mi faccio il cibo. Hai capito? Ecco, e tu invece vai a fare la fighetta ai circoli della Rai, a Viale Mazzini e l'aperitivino. Sentimi coglione, sai perché sono andato a mettere il muso in Rai? No, perché ma no! Io non vendevo un libro perché in Italia se non vai in TV a dire che sei morto, non lo sa né Parenzo né tua moglie. Ma lo sto dicendo a Parenzo, io non lo sto dicendo a te, Mauro. Ma pensavo fosse Parenzo. No, lo stavo dicendo. Ecco il duo della modernità, Cruciani e Corona, il duo della modernità. Parenzo, vai a cagare, Parenzo, ma chi t'ha messo lì? Purtroppo lo paghiamo anche, purtroppo. Lo so, ma dovrebbe pagare lui per le coglionate. Ma non accetta, scusami, non accetto il fatto che fai da spro. Vai a zappare la terra, cosa stai gonoso? Io ho un piccolo orto, in Umbria. Ma il cervello ti cresce l'erba. No, ma io ho un piccolo orto in Umbria. Ma mi cresce l'erba nella testa, voi due. Perché vai in Umbria? Ti vanno già gli inglesi, i tedeschi in Umbria. Vieni qua su, nelle terre strane. Ho capito. In Umbria sono tutti capaci, l'orticello in Umbria. Vabbè, ho capito, ma ce l'ho io un orto in Umbria. Che devo fare? Tu sei Cruciani o Parenzo? Cruciani. Ah, scusalo. No. Credo fosse l'altro, quello che l'ha l'orto in testa. Sì, quello che va a fare le... cresce l'erba in testa, le ortiche li crescono. Senti, ma la... C'ha avuto il concime nella testa, fabbrica. Ma non ti mando neanche a cagare che è una nobiltà. Stai stitico, questo è fortissimo. Vabbè, stai stitico. Adesso il fatto che Cruciani difenda il ritorno alla terra e a piantare le patate. Ma tutti, ma ti rendi conto di quale messaggio stiamo mandando? Tornati alla terra. No, e non mi fai mica giù, sei ragazzini, non solo le patate, gli ortaggi, il frumento, il riso. Hai mai mangiato il riso, Parenzo? Chi te lo dà la Befana? Lo coltivano i contadini e che lo farai anche tu. Hai capito? Ma quale contadini? Ma sì, alla fine... per la patata, perché avete tirato sempre l'esempio della patata? Come un dispregiativo, sei tu una testa di patata, di carciofo, sei di tutto. Ma cosa fai adesso? Vai a piantare la carotina nel giardino? Adesso. O parliamo seriamente o metto giù, No, Mauro, senti una cosa, ma voglio capire, la De Girolamo ministro dell'agricoltura, che ne pensi? No, ma non so neanche chi è, ma senta, i ministri stanno lì a tavolino e che se ne intende di terra, di lune, di semine, di cose. Ci vuole uno che se ne intende, mettete un contadino ministro dell'agricoltura. Vabbè, hanno messo la De Girolamo perché si sono spartiti i posti di governo. La De Girolamo? Sì, quella del PDL. Ah, mio Dio. La conosci quella del PDL, la De Girolamo? Allora, si vedono in TV, chi non conosce? Li conosci tutti in TV. Sì, li conosci, quella con i... bella ragazza, la moglie ma, di... La bellezza non giustifica saper dirigere, sentite, adesso a parte gli scherzi, sì. L'Italia, il mondo intero si salverà quando diventeremo imprenditori di terra, non funziona più a vendere automobili. Vabbè, non è che possono fare tutti gli imprenditori di terra. Di cosa? Di terra. Prima da lì si parte, lei, poi quando stornerà un po' di benessere allora ci si può permettere. Imprenditori di terra. Vedrete come finirà, io sarò morto, ma spero di vivere abbastanza per vedervi con le zappe. Vabbè, ho capito. Imprenditori di terra. Senta, Cruciani e Parenzo. Sì. Leggetevi un libro non vi dico né l'autore né la casa editrice, ve lo cercate su La fine del mondo storto. La fine del mondo storto, chi è? Sì. Mauro Corona l'autore? No, no, non vi dico un cavolo. Non ci dico un cavolo. Ma leggetevelo. Va bene, adesso ce lo leggiamo. Io voglio ricordare però il titolo del libro di Corona, così lo facciamo arricchire un altro po'. Ma sono contento. Non dire il titolo. Non bisogna della nostra elemosina io. Voglio il titolo del libro di Corona, che così abbiamo confessioni fatto ultime si chiamano. Perché tu dici che è milionario? Perché dici che è milionario? Ah, no, no, ho detto che no, milionario non lo fai, che guadagna Lorenzo, vieni su domani, se hai su sotto il cavallo dei pantaloni hai qualcosa, ma ne dubito. Vieni su che andiamo a vedere i miei conti accidenti. Ho detto che sei uno scrittore di successo, ma che cazzo sei, un morto di fame, scusa. Ho detto ma che sei uno scrittore di successo. Un pittore di successo, non abbiamo venduto un quadro. Sei uno scrittore di successo, non buttarti giù lì sempre a fare il poveraccio. Sei uno scrittore di successo. Tu non sei Parenzo, sei Apparenzo, perché tu appari solo a dire cagate. Senti, vieni su che controlliamo i miei conti, però dopo devi... Ma non voglio, ho detto che sei una persona di successo. No, hai detto che è un milionario, hai detto che è un milionario, dai. Ma che milionario, hai detto che ha tanti... Ma sì, come modo di dire, ovvio, no, fai il furbetto con me, Cruciani. Mauro, adesso calmiamoci tutti e poi aspettiamo qualche minuto. No, ho detto che è un uomo di successo. No, adesso ti richiamo, Mauro, adesso ti richiamo, adesso me la prendo io con Parenzo, adesso ti richiamo. Ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Fabrizio da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Vada. Il fatto è questo, The Fog, e secondo me lei non ha capito esattamente il sì. Perché la gente se l'è presa di quello che ha detto qualche giorno fa sul fatto. Il fatto è che anche io sono una persona cinica, che certe cose proprio non le mando giù perché secondo me le buffonate non mi piacciono. Però come gli ha detto il fatto che uno si debba sparare è stato un po' crudo, un po' troppo duro per una situazione del genere, capisce? Cosa è stato duro? Lei è crudo. Lontano. È lontano quel mondo. Senta, e lo capisco questo. Non, cioè, non è questione di essere lontani. Invece di essere chiamato come un disoccupato disperato, no, come d'accordo. Disoccupato disperato, questo signore non andrebbe lei, chiamato, perché... detto con tutto il rispetto, ovviamente per le tragedie umane, andrebbe chiamato uno psicopatico con un'arma abusiva. Così ho letto da qualche parte, faccio mia questa espressione. Andrebbe chiamato psicopatico con arma abusiva. Basta, senza nessun legame con la crisi, col concerto del primo maggio, con la disperazione. Con perdita di lavoro, che sono cose molto più serie rispetto a uno che va a sparare sulla testa di un carabiniere. Lo ha capito o no? Sì, io l'ho capito. Basta, lei basta capito questa sociologia d'accatto. Basta sociologia d'accatto. Basta, non posso più. Non è sociologia, è come lei l'ha detto. Non è, io sono d'accordo con lei, ma è come lei l'ha detto che ha sbagliato. Non può dire alla gente ti devi sparare un colpo in testa. No, io non ho detto così. Questo. Io ma non lei ha detto quello. No, non, non ho detto sì. Questo. Non ho vabbè, detto comunque questo. Un'altra cosa. Sì. Un'altra cosa. Secondo me Berlusconi adesso sta facendo il gioco della talpa e cioè, basta. Cioè? Come cioè? È facile. Sta facendo il gioco della talpa. Ha detto sì sì non c'è problema. Facciamo il suo governo. Cosa l'IMU? Sì sì ma poi ne parliamo. Ha fatto fare il governo. Ma è chiaro, è il King, per le palle. È il kingmaker. Per le palle, ha ragione. Ha ragione lei. Ha ragione. Grazie. È con noi uno degli ultimi giapponesi, anche se poi la fiducia l'ha votata, del Partito Democratico, l'onorevole Sandro Gozi. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come sta? Beh, sto bene, via il primo maggio. Lo sai dove l'ho incontrato l'ultima volta, Parenzo, l'onorevole Gozi? Nella hall di un albergo di Firenze, un albergo normale, un albergo, mentre aveva appena finito di fare la maratona. È vero, è andata molto bene perché ho fatto il mio miglior tempo, 3:27. Esatto, e stava scappando tra l'altro per dire che insomma non è che uno che non ci tiene al Partito Democratico, sarebbe per stato votare alle primarie. Esatto, era il giorno delle primarie, arrivava lì a Firenze, era domenica pomeriggio e scappava in Umbria se non sbaglio, o vicino a Cesena, non so dove. Cesena. A Cesena a votare alle primarie. A votare alle primarie, capito? Oh, questa visione ho avuto a un certo punto, alla hall dell'albergo ho visto Gozi arrivare, io mi ero ritirato dopo la mezza perché c'avevo dopo mezza maratona avevo dei problemi eccetera, ho stato male come sai Parenzo, visto Gozi che tempo hai fatto? Beh, ho fatto un tempo eccezionale, cioè adesso corro per andare alle primarie. Quanto tempo è passato Gozi? Sembra un secolo. Beh, politicamente sembra un secolo, diciamo la verità. Infatti, sembra un'altra era geologica in un partito di dinosauri che vogliono sopravvivere a se stessi, è un'altra era geologica quella. Ma un bel chi se ne frega non possiamo metterlo a commento. Ma no, ma che roba. La vita, questa è la vita normale, la vita normale. Ma Parenzo, come si dice a Roma, rosica perché lui non fa le maratone. Esatto, bravo Gozzi. Rosica, no, io sono contro, come Churchill, sono contro lo sport, fumo e bevo, e sono contro lo sport. Qualcuno dice lo sport fa male, tra l'altro, che non faccia così fa bene. Fa molto male, guarda come è ridotto Cruciani, fa molto male lo sport. Beh, vai, fa malissimo, rende pazzi, rende... Per voi mettere, sederti in una poltrona con del whisky e un sigaro enorme, ma che bello, grasso, Churchill, meraviglioso, grassissimo, grassissimo, grassissimo. Beh, però Parenzo a me non ricorda fisicamente Churchill. No, infatti. No, oppure prova a pensare al grandissimo Shannon, ad esempio, a Rick Shannon, enorme, grassissimo, che mangiava ho montoni. Capito, che vuol dire. Non mi torna sempre con Parenzo. Parenzo ha un fisico diverso. Beh, è un fisico diverso, però c'ha le occhiaie e la panzetta, un po' di grasso. Quello, che strano. La panzetta ce l'ha tua sorella. Vabbè. No, dice la panzetta ce l'ha tua sorella rivolto a me, ma mi insulta ogni volta, come io insulto lui, ma ormai è diventato... Ah, io? Sì, ma tu ogni tanto... Ma che oggi un tassista mi ha fermato... Lo so, che dici, Parenzo, che dici? No, che oggi un tassista mi ha fermato e mi ha detto, ma se te mando a fanculo, quanto te devo dare? Dico, vabbè, 50 euro va bene. Allora, a fanculo. Senta, ma in questo governo, Gozzi, dato che lei è stato uno di quelli che si è opposti, innanzitutto mi dica la verità, perché alla fine, dopo tutto questo cancan che ha fatto, i traditori, parole pesanti anche contro quelli che avevano affossato Prodi, alla fine ha votato la fiducia? Perché è sorprendente, però, uno... O no? Allora, i traditori rimangono e diciamo che verranno continuamente denunciati. Io credo che l'Assemblea Nazionale del PD che faremo l'11 maggio sarà una denuncia collettiva. Cioè? Non dico in che senso? Ma non dico mille persone, ma varie centinaia di persone che chiederanno chi sono i 101, quali motivazioni le avevano spinte a farlo e quali obiettivi vogliono. Ma se non si sono palesati adesso, perché si dovrebbero palesare dopo? Scusi. Noi continueremo a chiederlo. Ma chiederlo, ma c'avete una lista? Lei ha una lista di nomi che... O no? Sì, ce l'ha. Se avessi una lista e la pubblicassi sarei quasi da diffamazione, perché comunque è dentro, il voto dentro segreto. L'urna, no? Quando si scrive il nome o non si scrive il nome c'è chi lo ha scritto. Però lei ce l'ha la lista? La lista ce l'ha. In testa alcune idee ce le ho. Idee, perché ma anche ho votato la fiducia? Ho votato la fiducia perché innanzitutto la mia preoccupazione che ho avuto modo di esprimere in radio in un'altra trasmissione era che questo governo fosse un copia e incolla dell'ultimo governo Berlusconi dell'ultimo governo Berlusconi prima di quello di Monti e di vecchie glorie del centro-sinistra degli ultimi 20 anni. Ecco, un governo copia e incolla di questo genere non l'avrei mai votato e l'avrei detto prima, anche perché era assolutamente agli antipodi da quello che Napolitano aveva detto in Parlamento, perché è stato paradossale, sapete, Napolitano in Parlamento ha detto a quelli che sono in politica da 20 anni: avete fallito, avete talmente fallito che non siete stati capaci neppure di eleggere un Presidente della Repubblica, mi tocca rimanere al Quirinale per voi, adesso dovete cambiare tutto. Ora, che fossero gli stessi che hanno fallito a essere nel governo che è di servizio, che deve portarci in transizione a una nuova Repubblica o comunque a qualcosa di più digeribile di questi 20 anni di fallimenti, mi sembrava paradossale. Io ho detto, beh, quella roba lì non la voto. Vabbè, invece, da questo punto di vista Enrico Letta si è mosso bene, bisogna dirlo, perché insomma... Senta, ma ci sono ministri tra i cioè ci sono traditori tra i ministri secondo lei del Partito Democratico, ovviamente? Ma no, credo di uno, no. Uno, due, no, come credo? Credo di no. Qualche credo sospetto no, ce l'ha però, qualche credo di no. Qualche sospetto ce l'ha, qualche sospettino ce l'ha. No, 101 sono molti, quindi appunto, dire. Tra quelli del PD uno ci sarà o no? Ce ne sono 101 del PD, non no, so, tra quanti, i ministri, quanti, tra quanti i ministri. Quelli sono al governo, no, non lo so, non ho proprio la possibilità di dirlo. Se lo pensassi, se avessi forti indizi ve lo direi. E tra i sottosegretari ce ne saranno invece, quello sicuro. Saranno premiati in qualche modo secondo lei? Ma sottosegretari c'è il Cencelli che sta funzionando a tutto vapore, vediamo. Mi sembra che più che premia i traditori sia un'applicazione del Cencelli complicatissima, perché è all'interno di due grandi partiti e di un terzo che non è un partito ma Scelta Civica. Cioè anche il PD sta facendo in bocca al lupo ai negoziatori, perché è un rompicapo veramente grosso. Mi sembra che questo governo non le piaccia proprio. Quella stretta di mano molto forte tra Brunetta e Alfano, come l'ha vista? È stato un colpo tremendo? Cioè Alfano che stringe la mano a Brunetta. Che dovevamo farsi? Schiaffeggiare? Non lo so, però uno può anche non stringersi la mano in quel modo, diciamo, no? Beh, Brunetta Alfano o sono dello stesso no, partito? No, Brunetta è Letta, scusi, Brunetta. Ah, Brunetta è Letta. Sì, quella fa foto anche lì. Fa anche rima. E d'altra parte, voglio dire, è il capogruppo del PDL, Brunetta, sostiene Letta. Meglio che gli stringa la mano, però poi dopo avergli stretto la mano ha sparato su Imo a non finire ieri. Appunto, dico, è una stretta di mano, è una stretta di mano a doppio taglio, che stiamo attenti alle strette di mano di questo genere. Ma meglio meno strette di mano e meno dichiarazioni roboanti 2 ore dopo. Senta, ma c'è da fidarsi di Alfano, ministro degli interni? Io credo che la guardia deve rimanere altissima su tutta questa operazione, perché insomma... No, ma proprio Alfano, ministro dell'interno, lei quando ha visto, quando ha sentito Letta pronunciare le parole, vicepresidente del Consiglio, ministro degli interni, Angelino Alfano, che effetto le ha fatto? Guardi, ero rassegnato, perché nel momento in cui il nostro numero due, nostro come Partito Democratico, è presidente del Consiglio, il vicepresidente del Consiglio deve essere il numero due dell'altra parte. Alfano era il segretario personale di Berlusconi, poi è diventato segretario, non so come lo chiamo. Ma delegato, la lotta alla mafia sarà alta, oppure Alfano, ministro degli interni, è un po' un problema da questo punto di vista? Beh, obiettivamente Alfano non ho mai sentito che fosse stato, avesse fatto qualcosa di particolare su questo fronte. No, su questo non credo che sia quello il problema. Il problema è vedere se le priorità, certo la lotta alla mafia è una delle nostre priorità, ma è le priorità economiche e sociali urgentissime, come vengono affrontate. Il senso anche, ma il vero signore del governo, il vero, anche da questi primi passi, Limo, eccetera, il vero signore del governo chi è? Ieri e l'altro ieri, insomma, lo stesso Berlusconi si è candidato a presidente della convenzione sulle riforme. Ecco, se diventasse presidente della convenzione. Senza IMU, sta con la spina o qualcosa del genere. È evidente che sono delle dichiarazioni che non aiutano il governo e non aiutano neppure noi a mantenere un sostegno convinto, insomma. Senta, ma speriamo che sia un po' di rodaggio, no? Di prendersi un po' le misure, che devono capire che stanno sostenendo il governo, non è che siano all'opposizione. No, quindi... soprattutto poi che non hanno vinto loro le elezioni, non è un monocolore Brunetta, insomma. Esattamente. Diciamo che questi due giorni sembrava un monocolore PDL, non è esattamente così. Addirittura un monocolore Brunetta, poi tra l'altro. Non poi credo che anche lo suo PDL si opporrebbe. Senta, ma Berlusconi presidente della Convenzione per le Riforme, lei lascerebbe il PD? Se fosse così, col voto del PD, naturalmente, lei lo lascerebbe? No, io credo che il PD lascerebbe se stesso, mi sembra eccessivo, no? Ma io penso che fosse una battuta. Una battuta, uno perché no? Qualcuno pensa addirittura che Berlusconi, presidente della convenzione, sia una sorta di copertura per eventuali condanne giudiziarie, eccetera, così si è detto. Quello non servirebbe, perché presidente della convenzione o no... Non c'entra nulla, Non c'entra assolutamente nulla. Mi sembrerebbe... A me sembra una battuta, sembra uno scherzo. Ma lei uscirebbe dal PD nel caso? Ma io spero che il PD non accetti mai una cosa del genere. Traffico, pubblicità, torniamo subito. 80024 0024. La Zanzara. Tu non sei Parenzo, sei a Parenzo, perché tu appari solo a dire cagate. Dai Parenzo, vai. Vai, ma non ti mando neanche a cagare, che è una nobiltà. Stai stitico. È laica, la matriosca è laica e suona con maestria. Siamo qui, la Zanzara. Io ho ancora in testa questo striscione. Aspetta, dimmi caro, dimmi. No, ma è necessario mandare al rientro tutte le volte le contumelie del signor Corona? Stai stitico. Astronauta Gagarin. Ma te le mando apposta. Adesso te lo rimetto in linea fra poco, non ti preoccupare. Bene. Te lo rimetto in linea tra poco. È andato a piantare una carotina ora intanto lui? Stai stitico. Allora, io ho ancora in testa questo striscione da parte di quattro cretini di non so quale centro sociale a Torino, forse a Scatasuna, non so, lo avrebbe progettato questo Lele Rizzo, il quale voleva cacciare quelli del PD dal corteo e che ha detto: quello di Preiti è il gesto di chi non ce la fa più, se si fosse suicidato non avrebbe fatto neppure notizia, noi siamo al fianco di chi si ribella. Dunque, sostanzialmente, dice questo Lele Rizzo, di essere al fianco di chi si ribella. Avete capito? E c'era anche la sua immagine, l'immagine l'immagine di quel signore che adesso io non ce l'ho con lui ovviamente, che ha sparato al carabiniere, ma avere l'immagine di uno che ha sparato al carabiniere come emblema del primo maggio è una bestemmia, è una bestemmia. Certo. Lo volete capire o no che è una bestemmia? Certo. Come chiunque colleghi la crisi, il primo maggio, il lavoro, la disperazione vera a uno che spara in testa a un carabiniere. Sì, però c'è da basta dire con queste roba. Cose, basta, non ne posso però più. Però devi sentire uno psicologo del lavoro. Oddio, ma che c'entra? Ma che il lavoro, che la perdita del lavoro possa portare... Esiste una sindrome. Scusa, Davide, però io ti dico una cosa. Da depressione. Oh, ma me la vuoi fare finita con queste cose? Perché mi fai veramente arrabbiare. Allora, io dico semplicemente che è evidente che nella perdita di un lavoro ci possono essere ricadute di diverso tipo, ma questo è scontato. No, ma è proprio una sindrome nuova. Ma cosa c'entra con uno che spara in testa un carabiniere? No, voglio dire... Ma non vuoi dire niente, non hai detto nulla, basta, non se ne deve parlare. Non hai detto che sia collegato, ma bisogna sentire il professor Cancrini. Ma quale professor Cancrini? Ma quando mai? Che spiega i legami che ci sono tra la perdita del lavoro Vabbè. E la depressione. Ma che ce ne frega a noi? Ma che ce ne frega a noi? Forme gravissime che si può... Questo è un tema vero. Ma noi stiamo facendo la zanzara, non stiamo facendo l'incontro della sociologia all'Università di Camerino, hai capito o no? E siamo in collegamento... Non si potrebbe fare nulla, siamo in collegamento. Introdurre qualche elemento. No, non si alto. Può introdurre nulla. Fallo a Rai 3, fallo alla Rai, fallo alla 7. A me non me ne frega niente. Siamo in collegamento con il Rigge di Montecitorio, l'onorevole Sandro Gozzi, nonché Maratoneta, Partito Democratico. Chiedo a Gozzi ancora una cosa. Senta, Gozzi, ma c'è qualche nome? Se la Biancofiore fosse sottosegretario, ecco, che effetto le farebbe? Ma veramente ci riesce secondo lei? Beh, c'è qualche possibilità, pare che la vogliano agli esteri, non so dove. Agli esteri la mettono? Agli esteri, è esperta di Germania. C'era qualche consiglio all'ex ministro Frattini, credo, no? Sì, molto amica di Frattini, ovviamente, ma... Cioè, voglio dice va bene tutto, anche la Santanchè vicepresidente della Camera, che però quello spetta al PDL. Quello spetta al PDL. Sa, adesso è difficile poi fare, come si dice, lo screening ai singoli sottosegretari, dipende anche un po' dai ministri. Secondo me bisognerebbe che i ministri, insomma, è normale che un ministro voglia i migliori sottosegretari possibili. È normale anche che le varie correnti debbano tenere degli equilibri. Però adesso che è fatto, io spero che scelgano i migliori sottosegretari possibili, perché adesso che tutti. C'è questo governo deve funzionare. Poi quello se lo augurano tutti, però. Poi non so come funzionerà, diciamo, la chimica tra Emma Bonino e Michela Biancofiore. Certamente sono molto convinto di Emma Bonino, sul resto un po' meno. Senta, a me risulta che Franceschini, ministro Franceschini, pochi secondi prima di essere nominato ministro, ha chiamato un deputato dissidente, non faccio nome perché me l'ha confidato e non la voglio dire, dicendogli no, ma io non faccio il ministro, sicuramente non lo faccio il ministro. Un'ora dopo era nominato ministro. Lei si stupisce? Non ero io però il deputato. No, non era lei. Si stupisce di questo? Ma è vera questa storia? Beh sì, è vera, certo, gliela racconto in quanto vera, non è che non facciamo sempre gli scherzi, noi ogni tanto qualche cosa di vero Ma guardi, tutta questa vicenda è una vicenda che è nata molto male, perché è nata da un fallimento del PD. Il PD si è suicidato con quella... Cioè adesso non esiste più. Non esiste più il PD. Il PD, così come l'hanno gestito fino adesso, non esiste più. Dall'11 maggio, cioè dalla prossima Assemblea Nazionale, bisogna fare quello che avevamo promesso. Ma Franceschini può essere uno dei traditori? No, io credo di no. Obiettivamente credo di no. Anzi, mi sembrava di averlo visto anche abbastanza attivo in positivo, quindi, però insomma, In quei due giorni, in quel momento di schizofrenia collettiva che ha accompagnato l'elezione del Presidente della Repubblica, e nei giorni che sono seguiti, diciamo che io di lucidità in giro ne ho vista poca. Tutto può essere, no, molto molto molto poca. Per cui molto anche poca, Franceschini molto. Può essere tra quelli là, lei dice? No, non dico assolutamente che Franceschini sia uno dei 101, questo io credo di no. Però se ha fatto la telefonata e poi dopo due ore dopo è stato nominato ministro, nella confusione generalizzata che ha seguito quelle vicende, ci può stare, insomma. No, ma lo so per certo, perché ero con quella persona lì e mi ha chiamato mezz'ora fa Franceschini, dicendomi non vedo perché infatti ho sbagliato termine, dicendo che sicuramente non sarebbe stato ministro, io non sono alla lista. Un'ora dopo, ma non credo che l'avesse saputo in quell'ora là, era stato deciso prima evidentemente. Ah no, guardi, questo è possibile invece. Bah, non credo proprio. Anche perché quella persona, quando ci ho riparlato, ha detto: che vuoi fare? Così è la politica. Cioè, nel senso che non si è stupito, diciamo, di questa cosa qua. Cioè, alcuni ministri sono stati chiamati domenica pomeriggio dopo le 15, ad esempio. Quindi, ma Prodi, veramente lì è stata tutta una cosa. Prodi era una cosa che non doveva girare in questo modo. Ma qui, Prodi era meglio di Napolitano? Prodi sarebbe stato, Napolitano è stato un grande presidente, credo che Prodi sarebbe stato un'ottima scelta, io l'avrei preferita certamente. L'avrei preferita a perché non avrebbe fatto l'accordo, anche perché no, ma guardi, Napolitano aveva detto in tutti i modi che lui non voleva rimanere, è dovuto rimanere in vista la nostra, ma che qual è il legame tra Napolitano e Berlusconi? Cioè, ci deve essere un feeling particolare o no, secondo lei? Io credo che Napolitano abbia preso atto di una cosa che mi sembra sia molto più reale di tutti questi discorsi di questa retorica della legittimazione reciproca. Cioè, in queste 48 ore ho sentito delle cose mielose, dobbiamo riconoscersi reciprocamente, depositiamo le armi, la guerra è finita. Secondo me Napolitano da anni ha preso atto di una cosa molto, molto semplice, che la legittimazione al PD e al PDL, a noi, a Berlusconi, l'hanno dato i milioni di elettori che hanno votato noi e lui. Quindi tutta sta roba mielosa, sta melassa, depositiamo le armi, ma che roba è? Cioè, Napolitano da anni forse ha visto prima e più giusto di alcuni osservatori. Lei ha detto che ha quasi Fermi tutti un attimo. Che è successo? Breaking news, fermi tutti. Sul sito www.beppegrillo.it c'è la pubblicità del nuovo film di Sara Tommasi, VIP. Ma sul che c'entra? E chi se ne frega? Perché dico solo vergogna. Ma perché? Non ho capito. Questo leader di partito, scusate, eravate in una augusta conversazione, allora sul sito di Grillo, leader di un partito politico, c'è la pubblicità del nuovo film di Sara Tommasi. Ma allora qual è il problema? Allora dico solo vergogna, Beppe. Perché? Non ho vergogna. Capito. Perché? Non ho capito. In Germania lo fanno. Cosa fanno? Fanno un partito. Fanno film porno in Germania sempre. Per finanziare un sito, è evidente, anche la Merkel. Anche nel sito della Merkel, della Gross Coalition, ci sono film porno in continuazione. Ma scusi, ma lei ha fatto. L'altro giorno ha beccato sua moglie là, che ha fatto? Ma certamente, ho messo tutto nella rete. È andata via di casa mia moglie da una settimana. Tolto l'energia elettrica, non funzionava più un cazzo. Frigorifero staccato, conservavo il cibo col sale. Ma perché fa questo? Perché in Germania lo fanno, è la modernità. Ma cosa? Perché si fa così? Nulla, anche Renzi, non serve. C'era la signoria, c'erano i guelfi e i ghibelli. Non serve un cazzo il sindaco, a niente. Ma non ho capito, perché questa cosa dell'energia? Perché adesso si è fissato Grillo con questa storia di staccare l'energia? La decrescita, ho capito. La casa mia non c'è più elettricità, l'acqua non la si per non sprecare, la gente caga in tutta la casa e va a pulirsi nel giardino. In Germania lo fanno, anche la Merkel. Ma non è vero che lo fanno. Perché dice che in Germania lo fanno? Ogni volta dice che in Germania lo fanno. Non mi risulta che lo fanno. Perché abbiamo messo pannelli ovunque, pannelli solari dappertutto. Beh, ho capito, però bisogna fa un freddo cane a febbraio in casa, ma in Germania lo fanno. Solo pannelli solari. Ma non è vero che in Germania lo fanno. Lo fanno ovunque in Germania. Scusi Grillo, ma la decrescita che vuol dire in concreto? Come l'applica a casa sua? Che non devi consumare un cazzo. L'acqua non c'è più. Il cibo lo conservi con il sale, come gli antichi. Ti insegna tutto l'antichità. Il piscio lo bevi e non ti serve l'acqua. Beh, è così. Sono morti. Non bisogna neanche parlarne, è vilipendio a cadavere. Capito? Morti, in Germania lo fanno. Ma quale Germania lo fanno? Va bene, Sandro Gozzi, grazie. Grazie, a presto. Grazie a voi. Grazie, a presto. Pubblicità. La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue come vampiro. La zanzara. Perché avete tirato sempre l'esempio della patata? Come un dispregiativo, sei tu una testa di patata, di carciò, sei di tutto tu. Fuggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Mi vieni piccolo Iorcino, vieni su che ti insegno io, ti butto dentro con la testa, ti insegno a fare l'orto. Vieni, grazie a tutto. Dai, Parenzo, vai. Vai, ma non ti mando neanche a cagare che è una novità. Stai stitico. Fuori, ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformare? Se no. Basta con la retorica del primo maggio, non ne posso più, non ne posso più. La gente che grida lavoro, lavoro, lavoro senza indicare come e perché. Innanzitutto il primo ministro Letta oggi gliel'ha messo in quel posto a tutti quelli che pensano il lavoro a tempo indeterminato, le cose e i contratti, eccetera, eccetera, perché ha detto beh, forse bisogna ritoccare la questione del lavoro flessibile. Vedete che casino uscirà fuori, no? No, ha detto che va rivista la Fornero, la legge Fornero. Ma che vuol dire? Dalla parte in cui è stato irrigidito il lavoro flessibile, dunque lui vuole togliere quella parte là, è evidente. Non è detto, non è vabbè, detto. Non hai capito. Enrica da Bergamo, buonasera. Scusami, ma l'altra notizia di oggi, che vogliono cacciare la signora Geloni. Sì, vabbè, ma la gente no, che scusa, con che tutto rispetto, pubblico... la gente che sta no, ecco, che sta capisco. In strada, capisco. Camionisti, tassisti, capisco. Gente comune, capisco. Il nostro capisco. Popolo, nostro sì. Popolo, secondo sì, te, capisco. Detto con tutto il rispetto, capisco, conosce capisco. La signora capisco. Geloni? No. No, però dico, capisco Enrica la tua acrimonia. No, io non ho nessuna acrimonia, io l'abbraccio fortissimo. Nei no? confronti della Geloni. Ma non ho alcuna acrimonia. Voglio dirti che la notizia di oggi, marginale no, per carità, mia, nel fiume di è una notizie. Una cosa pazzesca, guarda, è una cosa pazzesca. Io, e, non, io non ne posso che più. Ma sai, non, ma sai che fra poco ti piglio veramente a calci in culo e ti caccio da questa trasmissione. Enrica da Bergamo, buonasera. Oh, ma perché ce l'hai con la Geloni? No, ma tu ti vuoi fare cacciare, io ho capito, ti vuoi fare cacciare. Enrica da Bergamo, buonasera. Non vuoi parlare della Geloni, io non capisco perché. Posso parlare o cosa? Sì, lei è Erika o Enrico? Perché non ho capito bene dall'accento, scusi. Dalla Erika, parola. Erika. Erika da Bergamo, sì. Allora, io vorrei dire prima di tutto a Parenzio che è una testina di vitello che non capisce una mazza. Bene, Udo. Vabbè, questo adesso sì. Però va inquadrato, questo pensiero. No, no, no. Questa riflessione profonda va inquadrata. Glielo garantisco io. Sì, una poi? Di vitello. Una testina di vitello, poi, bene. Sono d'accordo con Borghezio perché non vuol dargli le case extracomunitari. Perché non l'hanno data a me la casa comunale che non ho lavoro. Sì, ma che c'entra Borghezio? Borghezio si vede che non ne aveva diritto. Si vede che non ne aveva diritto. Alla fine. Allora, si vede che c'erano persone prima di lei che avevano più diritti di lei. Come? Ma non ho diritto. Vabbè, cara Erika, che vuole da noi però? Scusi, abbia pazienza, che vuole da noi? No, volevo lasciarmi il discorso dell'altra sera. Ma quale discorso dell'altra sera? Qual è il discorso di Borghezio dell'altra sera? Cosa stava... Che non vuole dare le case agli extracomunitari. Ma dipende, ci sono extracomunitari che ne hanno diritto, altri che non ne hanno diritto, a seconda delle norme. Se lui di principio non le vuole dare agli extracomunitari, vabbè, sarà un problema suo. D'altra parte non mi sembra che tutte le case siano occupate abusivamente da extracomunitari. Bisogna vedere come sono fatte le graduatorie, come le organizzano appunto. Gli enti locali, eccetera, eccetera. Cara Erika, non è che cara, cara Erika un corno, cara Erika. Vabbè, cara Erika un corno. Vabbè, cara Erika, d'accordo, cara Erika un corno. Si metta il cuore in pace. Si metta il cuore in pace, cara la mia Erika, cara no, la mia Erika. No, guardi, io mi metterò il cuore in pace, ma lei si deve mettere la testa in pace, Parenzio. Parenzio. Cara la mia Erika. No, cara la mia Erika un corno, glielo dico io, un corno. Cara la mia Erikuzza, allora, Erichetta. La mia Erikuzza. Allora, cosa gli dico? Rimetta. Ha ragione Mauro Corona, ha ragione rimetta, Mauro Corona. Rimetta la camicia verde nel cassetto. No, guardi, lei si sbaglia, io non ho la camicia verde, lei si sbaglia di grosso. Come ce l'ha allora? Beige, come ce l'ha? No. Nera. Appunto, la camicia nera, bruna stavo per dire io. Nera, La camicia nera. La camicia nera, le piace? Nera e rossa. La la la la la la la la la la la la. Com'è? Capito? No. A quel testina di vitello là a Parenzio. Vabbè. Grazie, cara Erika. Traffico, torniamo tra un attimo. La Zanzara. Isterico. diventare matto se tu sei geloso. Peccato. Riproviamo. Antonio da Milano, intanto. Oh, dai, no. Antonio? No. Pronto? Vada. Allora, intanto volevo dire a Parenzo, sta estetico. Sì, vabbè. Tanto per. Poi? No, poi volevo dire, perché le Cruciani si altera un attimo quando offendono i politici? Lei ha invitato Giovanardi poco tempo fa, il quale ha offeso la madre del ragazzo ucciso dai poliziotti, dicendo che erano innocenti, che dovevano uscire perché non... Sì, allora? L'ha detto Giovanardi, mica l'ho detto io, No, appunto, però poi dopo si meritano le offese, perché lo stesso Giovanardi ha difeso persino, cioè ha offeso i parenti del caso Ustica, dicendo che la bomba era dentro l'aereo, mentre invece è venuto fuori che... Vabbè, questa è la sua teoria su Ustica. Sì, ma no, nel senso che si meritano le offese, se le meritano le offese. Vabbè, allora chi perché si merita? Perché sono loro, perché quando poi... Ma chi si merita poi le offese? Chi si merita le offese? Si fa rimborsare... Contrini stupidi e le offese se le meritano, quindi non li difenda, lasci che li offendiamo pure. Vabbè, poi? E poi dopo niente. Poi niente, arrivederci. Paolo da Parma, buonasera Paolo. Cruciani, vada. Tre quarti d'ora che aspetto il pesce nel forno, che pesce tutte le robe che non... Che pesce? Stavo addormentando. Che pesce è, Paolo? Con la carica di pesce. Due pescetti fantastici, un trancio di salmone, Poi? E poi c'è un trancio di merluzzo ma nordico. Beh, si tratta una bene. Una cosa . Buonissima, il forno me l'ha fatto da tre quarti d'ora, mi stavo senta. No, beh, addormentando, non esageriamo adesso. No, vabbè, stavo addormentando ancora a parlare della carica del 101. No, ha ragione. Della cara Erika. A parlare... Vabbè, ho capito, adesso non è che solo quando interviene lei si ravviva la situazione. C'è stato anche Mauro Corona. No, ravvivo io. Quello che voglio dire a lei, che ha detto che il primo maggio le fa cagare. Sì, esattamente. Io voglio dirle invece, lei... Voglio vederla lavorare in fabbrica, io la prego, voglio vederla lavorare in fabbrica. E che c'entra? Sti nozze, voglio vederla andare là a lavorare. Lei vedrà che dopo lei andrà sul calendario a vedere quando è il primo maggio, per festeggiare insieme agli altri. Bravo, questo è vero. Per andare lì a far questo, voglio vederla lì. Anzi, io scriverò domani una lettera al direttore dicendo, la prego, lo mandi due mesi a lavorare in fabbrica, una notte, a fare il tour di notte. Adesso per fortuna non si può essere obbligati. No, obbligato, ma vorrei che lei provasse, la voglio così. Vabbè, ma provare sono capace. E vedrà che dopo il primo maggio dirà che bello il primo maggio. Hanno ragione, andrà anche lei con la bandiera in piazza. Anche lei con i jeans. Lei dice. No, io dico di sì. Dico di sì, adesso la lascio perché vorrei terminare il mio pesce. Ma che mangia stasera solamente? Io voglio però parlare di cose, sentirla bello, vivace, come con Corona. Corona. Ho capito, ma non è che possiamo avere solo Corona per voi. Avete avuto l'onore di parlare con Corona, che vi ha detto di tornare alla natura, ma per lei forse, per voi due è un po' troppo nobiltà, insomma, tornare alla natura. Ma scusi, ma parla lei che si sta facendo, caro Paolo, lei si sta facendo i pescetti al forno, tranquillo, il salmone e il merluzzo, ma che vuole da noi? Wind. Al forno, me l'avete rovinato. Vabbè, io l'abbiamo rovinato. Ma questa è una cosa grave. Senta. Mi dica. Vada un mese, la prego, a raccogliere i pomodori nei campi. E io dopo... non ci vado manco per niente, ma non me ne frega niente. Andare. Ma assolutamente. E dopo vedrà che la festa del primo maggio, lei al mattino si sveglia dicendo che bello, sorride e va in piazza con la bandiera. Io la voglio in piazza con la bandiera. Bah. Bandiera rossa, non quella nera, che so che lei ama quella nera. Ma guardi, io non ho mai impugnato né quella rossa né quella nera, per fortuna. Ma io... Guardi, per fortuna. Io rido perché, certo... No, io l'ho vista con la bandiera nera. No, io lo dico, l'ho vista già con la bandiera nera. Ma quando mai? Io l'ho vista. Sì, ma dove? L'ho vista già con la bandiera nera che tirava sotto casa di la russa. Sì, ma sicuro? Per farle vedere, sì. Sicuro. Era così. Paolo, così. Torni ai pescetti, va. Torni ai pesci. Lei, un mese. In fabbrica. A lavorare. Sul serio. Esatto. Marco da Messina. Marco? Buonasera. Vada. Allora, dopo dopo tutta la merda che la politica ci tira addosso, ma chi l'ha detto? Non ma tutti chi ha reagiscono allo stesso modo, qualcuno ogni tanto, sì, qualora fosse vero che a Roma hanno sparato, intenzionati a sparare ai politici, magari vorrebbe tirare fuori un po' di sangue. E solo questo è il motivo, questa martirizzazione del carabiniere, dove tutti sono sul carro, non serve a niente. Non serve assolutamente a niente, i politici se ne fottono del carabiniere, non gliene frega niente. E già è tutto previsto, non faranno altro. Tutto previsto da chi? È tutto previsto dai politici, da chi? Dai politici. Questa martirizzazione servirà solo ad aumentare i loro privilegi, la loro sicurezza. Ma la martirizzazione di chi? Stare bene. Come, scusi? Non ho capito, la martirizzazione di chi? Sono tutti sul carro in questi giorni, sul povero carabiniere, il povero carabiniere faceva il suo dovere. Beh, certo, che bisogna dire? Che bisogna dire? Sì, è vero, e allora? È vero, quello era là a fare il suo dovere, giusto, ma tutti questi che hanno questa forma di empatia nei confronti del carabiniere, realmente se ne fottono del carabiniere. Beh, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Ma questa è la verità. Ho capito, però adesso non è che il carabiniere era lì davanti a fare il suo mestiere, cioè a fare il suo dovere. Punto. Giusto, e basta. Non è che uno dice che si è sacrificato, che era lì a difendere, cioè era lì davanti a fare il suo mestiere. Punto. Sì, ma tutti questi che ora provano questa forma di dispiacere. Un attimo. Pronto? Mario! Allora, ciao Bordo. Mario! Come stai? Ah, Erminio, io benissimo, adesso c'è il governo Letta, finalmente c'è gente seria, basta con te robe, secessione, puttanate, basta. Ma chi è che ti ha detto questo? No, voglio dire, adesso ormai c'è una nuova fase, cioè io sono felicissimo perché c'è anche la ministra Cécile, quella ministra per l'integrazione straordinaria. Vedi, ormai è fuori dalla storia questa roba che voi dite dell'immigrazione, perché finalmente siamo un paese civile, Erminio. Abbiamo una ministra di colore. Il paese civile lo trovi dove qualsiasi delinquente può entrare senza documenti, senza carte, senza visite sanitarie, portare qualsiasi tipo di malattie, vivere di delinquenza? Ma cosa c'entra? Finalmente abbiamo una ministra di colore, per la prima volta nella storia della Repubblica, ministra all'integrazione, mettitela via! Ma scusa, mettitela un cazzo te, mettitela via! Mettitela come via. Puoi dire tu una cosa del genere quando non sai nemmeno come ha fatto questa arrivare in Italia? Ma cosa c'entra? Come è arrivata? Beh, è italiana! Sconfitti ormai! Ma chi te l'ha detto che è italiana? È italiana, è cittadina italiana. Perché un barretto c'è stato il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, che hanno fatto le foto assieme? No, devi dire, io sono entusiasta del fatto che per la prima volta c'è una ministra di colore. Per nessunissimo motivo, perché è una grandissima stronzata per un governo che durerà fino a ottobre, novembre. Vabbè, comunque intanto sconfitta quella linea lì che per ma cui chi te l'ha detto che è stata sconfitta? Te lo dico io. Basta, ma finite tu, con le... tu non sai niente delle linee politiche. Scusami Erminio, però Erminio, scusami un attimo se ti interrompo. Basta pagliacciate. Però scusa, ti voglio chiedere una cosa. Ma perché per te non è stato giusto fare un ministro di colore? Ma perché non è una persona che può dare una garanzia di come è arrivata in Italia? Ma come? Che ne sai di come è arrivata in Italia? Ma che vuol dire? È laureata qua. Ce lo spieghi la signora come è fatta arrivare in Italia? Ma sarà arrivata attraverso una borsa di studio, che ne so, è diventato... Ma chi te l'ha detto? Ma come è arrivata? Con i barconi, come è arrivata secondo te? Ah, beh, per conto mio ci sarà sempre stato il solito gioco della Caritas. Cioè? Che ha portato a queste condizioni. Cioè è arrivata illegalmente secondo te? Certo. Vabbè, adesso questo non si può sapere, Erminio, dai, su. Allora, chiedetele, ho visto che è vostra amica. Ma non è nostra amica, non è come nostra amica. Come non è vostra amica? Ma non è nostra amica, non è nostra amica, dai, su. Come non è vostra amica? È vostra amica, sì. Ma scusi, allora, ma non è... a un amico si va e gli si chiede. Sì, ma scusa, tu ti senti rappresentato, cioè, da questa... No. No, non ti senti rappresentato. Perché? Perché per nessunissimo motivo. Perché è di colore? Ma no, perché non è un ministro che mi rappresenta. Perché un ministro che è due giorni che è in carica va a trovare i delinquenti congolesi e non va a trovare le vittime, scusami, che ma il ministro italiano è? Ma dov'è che è andato a trovare i delinquenti congolesi? Ma quali delinquenti? Ma come no? No, c'era su tutti quanti i giornali. No, ma guarda che là in montagna dove sei ti hanno informato male. Scendi, no, no, io sono in montagna, respiro aria buona, non è che respiro aria inquinata e tratto alla mente come voi altri. Ma, io qua respiro molto bene. Scusami un attimo, ma, il fatto, notizie, il fatto che è di colore, per, il fatto che è di colore per te è un problema? No, no. Basta che resti a casa sua. A casa sua dove? In Congo. Ho capito, ma è cittadino. No. Beh, no. Lei mi deve spiegare come è arrivata a casa mia. Ma non ti deve spiegare niente. Ma è italiana come te. È italiana più di te, più di ma te. Ma è più di te. È italiana. Allora ve la tenete voi. Come beh, italiani vi tenete il ministro italiano di colore. Ma è più italiano di te, non perché rispetta la Costituzione, hai capito? È ma più italiano di te. Comincia a parlare tu la Costituzione, Parenzo, che io l'ho studiata abbastanza. Però scusa, Erminio, perché mi dici che non ti rappresenta, non ti senti rappresentato? Perché del Congo non è italiana, non ho capito. No, perché al momento, quando io non so come uno è arrivato a casa mia... Sì? Non posso accettarlo né come rappresentante né come nemico. È un nulla. È un nulla. Certo. È un nulla. Ma il fatto che vuole lo ius soli, cioè la cittadinanza per chi ha una... allora questo qua è la Costituzione, come dice. Sì, e che ne so, si può cambiare. Visto che voi siete quelli che sa la Costituzione. La Costituzione non dice questo, quelle sono leggi che dicono che regolano. La Costituzione dice un'altra cosa, per avere la cittadinanza devi avere quanti anni di residenza? Ma non lo so, queste sono le leggi, si possono cambiare come, le leggi. No, io ti dico la Costituzione, visto che quando vi fa comodo c'è la Costituzione, quando non vi fa comodo ci sono le leggi. Scusi, cosa dovrebbe fare, secondo te? Tornare in Congo? Sì, signore. Beh, no. A casa sua. Ma è italiana. Ma no, Erminio, dai, su, fa il medico, fa il medico. Ma perché devo fare il medico? Per nessun motivo. Ma fa il medico questa qua, è medico, è un medico. Non me ne frega niente di cosa che fa. Ma tu li stai tornando e stai dicendo... Dicendo che il Congo ha bisogno di medici e ritorno in Congo a fare il medico. Ma dai. Ma che cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto della bestialità? Quella è più... Lei è più italiana di te. Ha studiato qui, è un medico, salva la vita, non dice stronzate come dici tu. Ma vedi Parenzo, tu quando arrivi a queste condizioni qua si vede quanto sei alterato, usi droga, bevi, Parenzo, perché quando sei in queste condizioni non so mai se ti droghi o se bevi. Ma ti rendi conto di quello che dici? No, io mi rendo conto, sei tu che non ti rendi conto di quello che dici. Stai parlando, tu ti faresti mai curare dal medico, dalla dottoressa ministro per l'integrazione? No. Perché no? No. Ma lei non ti curerebbe neanche perché gli fai schifo probabilmente, guarda, anche a lei. Anche a te ti fa schifo? Vedi, Parenzo, hai sempre le solite condizioni. Sì. Sei talmente ripugnante come essere umano e come uomo che metti tutti quanti la tua stessa stregua. Scusa, ma ti fa schifo? Sei razzista. Uno che dice che non si farebbe curare dal medico se sì, il ministro per l'integrazione, solo perché è di colore... È un razzista. Perché non ti faresti a curare? A casa mia. Erminio, perché non ti faresti curare? A casa mia è un razzista. A casa mia. Ma io sono razzista, non mica mai negato di essere razzista, stronzo. Vabbè, Erminio. Non mica mai negato io. Cioè, tu non ti faresti curare perché è di colore, cioè ti dà fastidio il fatto. No, perché è una strana a casa mia, io dagli estranei non mi faccio curare. Ma tu hai estranea! Hai ancora estranea di cose che hai cittadina italiana. Hai ancora la tessera della Lega, Erminio? Sempre, è sempre secessionista. Un attimo solo, ho la borsa, un attimo. Anzi, non c'è la borsa, la pubblicità. Un attimo, torno Erminio, torno un secondo. La Zanzara. Lei ronza un po' di qua. Ma c'è ancora Marco da Messina? Marco? Prima era un politico. Non ho capito, Marco. Quello di prima era un politico? È stato un politico, è stato senatore, parlamentare. È un deputato della Lega. Ah, sì. Bene. Quindi avete capito perché succede quello che succede. Questo è quello che andava in Tanzania a comprare diamanti. No, no? Non era lui, stia zitto. Non era lui. Non dica stupidaggine. Ah, okay. Va bene, perfetto. Non le parliamo. Comunque, chiudo il discorso. La sintesi è questa, che qua abbiamo molti politici che sono dei giganti sostanzialmente, ma non sono altro che dei nani vestiti da giganti, capito? E devono avere questi carabinieri che li proteggono, perché da 20 anni che vendono solo merda. Questi vendono merda. Sì, Marco, lei deve stare tranquillo. I carabinieri fanno il loro mestiere a prescindere dai politici che ci sono. Sarebbero stati di fronte a Palazzo Chigi anche se là ci fosse stato Churchill, ha capito? Marco? Certo. Ha capito, sì o no? E sì, basta. Basta di anche Sparri che mostra il dito medio a destra e manca. Lui, se non avesse delle persone che gli girano attorno che lo proteggono, sarebbe niente. Ma che vuol dire sarebbe niente? Che vuol dire sarebbe niente? Perché tu sei forte solo in questo caso quando hai un codazzo di persone che ti gira attorno e ti consente di fare il gradasso. Io ti vorrei vedere così in mezzo alla gente, vediamo se tirano il dito medio fuori o chissà che altro. Comunque guardi, Gasparri ha sicuramente sbagliato mezzo, perché non si può non si deve mettere allo stesso livello di quelli che lo insultano, giusto. Mi pare evidente. Ma spiegateglielo allora, se mi capita glielo spiego tranquillamente. Capire una cosa del genere non dovrebbe scusi però questo politico. Cosa c'entra questo con quello che ha sparato in testa al carabiniere? Mi spieghi c'entra, cosa perché c'entra? Questo clima che si crea dipende proprio da questi politici, da questa classe politica che vale poco, vale molto poco. Ma cosa c'entra con quello che spara in testa al carabiniere? Quello che ha sparato in testa al carabiniere ha detto, almeno lui ha dichiarato, che è andato là perché voleva sparare a qualche politico, o ricordo male? E allora? E allora significa che sicuramente non tutti reagiscono allo stesso modo, aveva le palle girate e magari voleva prendere Gasparri e fargli cadere quel ditino medio, ha capito? Se avesse preso Gasparri avrebbe fatto bene, se avesse colpito Gasparri? No, assolutamente, io dico solo che lui... No, lei lo vuole dire ma non ha il coraggio di dirlo. Lei lo pensa ma non ha il coraggio di dirlo perché lei è un codardo. Lei mi vuole tirare fuori di bocca delle parole che non sono le mie parole, perché lei vuole fare audience. Io le sto dicendo che la reazione di quella persona è diversa dalla reazione di un'altra persona, siccome lei non ha la verità rivelata in mano. Ma chi e non ce tutti l'ha? Pensano allo stesso modo. Il suo punto di vista è uno, quello di quella persona è un altro. Va bene. E comunque il meglio deve ancora venire, quando il in calcio non basterà più alle pecore, perché in Italia il calcio sazia le masse. Sì. Vedrete che di queste cose magari ne succederanno ancora. Ma lei è contento, mi sa, Marco? Lei non io, sì, la massa lei... è contenta. Io guardo, io sono un osservatore attento, mio ma caro Cucciano. È diverso. Io guardo quello che succede, queste sono marionette. Comunque, quando io la sera ascolto la Zanzara, là c'è la Biancofiore, col cagnolino che canta, lo voglio avere duro come l'amico di Carisio. Perché? Perché? Duro, perché mi piace, perché questa è la classe politica. Questa signora che viene là, canta col cagnolino, allora... si prende a spada tratta. Questo è il risultato, ha capito? Questo. Ma io è questo. Parenzo, di qualcosa risposta... di della massa, che cos'è? Alla siccome della siccome la Biancofiore viene a cantare da noi col cagnolino, allora bisogna sparare ai politici, non ho capito. No. Attenzione, io non dico questo, dico solo che la reazione di questa persona viene fuori da tutto quello ma che quando mai? Nel posto del ma tempo. Non è vero, dico. Ma non è come così, no? Non è come così. No? Va come bene, no? Marco, grazie. Marina dalla provincia di Varese. Sì, buonasera. Dica. Allora, soltanto per dire che sono un po' stufa di sentire gli esponenti del PD che sono in giro in pellegrinaggio ovunque a piangere perché non sanno spiegarsi come mai hanno fatto il governo con Berlusconi piuttosto che... Beh, è una seduta di autocoscienza continua. Ma è di una falsità pazzesca perché secondo me stanno spalmando delle responsabilità sui 101 dalmata che non sanno chi sono. Sanno benissimo chi è. Ma certo che lo sanno benissimo chi sono. E hanno un atteggiamento di falsità che è veramente vomitevole. Cioè, in confronto, siccome io ho votato Oscar Giannino e non averlo più mi dà fastidio, non capisco perché Marina. Di fronte a questi pupazzi che raccontano un sacco di frottole, uno soltanto ha avuto il coraggio di dimettersi perché questi sono fermi lì inchiodati al loro posto anche se non condividono le linee del partito. Scusi se glielo dico, ma la vicenda di Giannino con tutta questa roba qui non c'entra assolutamente nulla, lei lo sa benissimo che i motivi sono altri. Grazie. Antonio da Napoli. Arrivederci. Antonio da Napoli, buonasera. Finalmente dottor Cruciani. Mi dica. Finalmente, aspetta, blocca il signore un attimo, qui che tanto questo. Che c'è? Che succede? C'è Achille Occhetto sulla 7. E chi se ne frega? Antonio da Napoli. Penso che Achille Occhetto, fondatore del PDS, Ma chi se ne frega? Più interessante del camionista che dice allora, pronto, Crociani. Penso che abbia più cose da dire Occhetto, manda un attimo perché Antonio, fammi sentire Antonio da Napoli che preferisco, dai. Antonio. Io sento Occhetto. Tu invece, senti Occhetto, guarda. Io sento Antonio da Napoli, vedi, questa è la differenza. Antonio da Napoli. Questa? Posso parlare, dottore? Certo, come no? Dottore, io non so se voi siete stati a Milano, da avanti là, però io so che il comunista ha costruito e i fascisti hanno demolito. No, non ho capito questa cosa, però non mi faccio dare ragione a Parenzo. I comunisti che hanno fatto i comunisti. Il Partito Comunista da che esiste, io sono iscritto al 56. Sì, però non c'è più il partito. Non c'è più il partito. No, lascialo parlare. Sì. Allora il Partito Comunista ha costruito e sta fuori. Il partito fascista ha ma demolito. Non c'è mai stato il partito fascista da un po' vecchio, no, però voglio comunque dire, per dire. Adesso certo. Quello è là che sta al governo, strettissima attualità, dottor, mi deve far parlare. Ho capito, ma lei parte dal partito comunista, dal partito fascista? Vabbè, no, io sono dal 1921, no, dalla scissione di Livorno, dottore, per ribadire che il partito comunista in Italia ha costruito sempre, ha cercato di costruire tanta l'opposizione, sì. Mentre per far capire alle persone, mentre il partito fascista ha demolito sempre, ha fatto solo ma danni. Non è mai esistito il partito fascista. Va bene, all'opposizione, ma quale opposizione? Non c'è mai stato. Va bene, dottore. Non c'è mai stato. Come vediamo, dottor Cruciani. Allora? Allora. Io sono iscritto al partito dal 56, sì. E allora vedo che al governo ci stanno tutti PDL e DC, e il Partito Comunista che ha fatto sempre lotte, sta fuori. Allora io, ma non è che sta fuori, chi ti ha detto che sta fuori il Partito Comunista? No, allora il PD... No, ma non c'è più il Partito Comunista! Allora noi lo dice, ma il Partito Comunista, te lo dico io, si chiamerà Partito Democratico Comunista, si devono scrivere solamente quelli là ex comunisti come me, sì. Perché io ho Parenzo, stai ascoltando con attenzione? Un momento, io David, stai ascoltando con attenzione o no, Antonio da Napoli? Io sto ascoltando il professor Massimo Cacciari, non voglio dire non... Dottore, sì, mi ascoltate, fate parlare pure a un altro, io non lo so, allora come fate? Un altro. Dottore, ma come dice un altro questo? Un attimo. Io non sono un altro. Senta Cacciari. Ma io non sono un altro. Un attimo, Antonio. Con mezzucci d'emergenza, siamo in questa prospettiva? La crisi dei partiti, lo sfascio dei partiti, è molto meglio Antonio da Napoli. Antonio! Dottor Cacciari, sì, è dottor Cacciari, sì. Allora, dottor Cacciari, che è un filosofo. Ma come un filocchio? È un filosofo, è un teorico della sinistra. No, io non penso. È un filosofo, allora? È un filosofo. Sì. Allora, io, a me mi piace quando parlo, dico sempre le cose giuste. Allora il Partito Comunista, sì, mi faccia dire, per piacere, prego. Allora, ma mi faccia dire cosa, amico mio, che siamo nel 2013. Dottore, la parola, dottore, ho l'occasione di dirvi questo, fatemelo dire. Ma ho capito, è 3 minuti che stiamo qua. Momento, è un minuto, se non mi fate parlare. Allora, ma non è Radio Storia questa qui. Un momento, dottore, una cosa, il Partito Comunista... Ma un momento, niente! Partito Democratico Comunista, sono i comunisti e socialisti e quelli nuovi dobbiamo vedere chi sono, da dove vengono. Allora solo così ci possiamo fidare del Partito Democratico Comunista. Ma qual è sto Partito Democratico Comunista? No, dov'è? lo rifaremo, cominciando da Napoli. E vedete che poi se avrò l'occasione di parlare con Bessane, perché ho anche il numero telefonico della sezione del PD di Roma, però lì mi dicono che poi devono decidere altre cose, per ora, e fanno bene, si deve governare ora, oramai. Ma quelli che sono a governo, ora sono PD, no, sono DC, come si chiamano, tutto DC e PDL, il Partito Comunista, non c'è nessuno fuori. Allora, non ci sono i comunisti, tanta lotta è fuori. Allora io mi sento, sapete come mi sento? Allora adesso faccio la tessera della sella. Vabbè. Della Selle. Allora, a me della Selle, che sarebbe di... una persona seria. Scusi un attimo, poi, Antonio, ma che è la tessera della Sella? Del no, della Sella? Della Sella, di Vendola, con Vendola. Ah, Vendola, con Vendola. Ma Vendola è sicuro con Vendola, lei? Sì, sì, sono sicuro, perché è serio. Quello che dice la mandina, se, Vendola è pronta... anche beh, però, a processare. Lei che è un vecchio signore, lei che è un vecchio signore comunista, Vendola che è un po' così, no? Ma bene, io sentite, io ho fiducia in Vendola, del Partito Comunista che non c'è più, quella che sono rimasti che stanno al governo. Per me non rappresentano il Partito Comunista, rappresentano loro stessi, la DC, la vecchia DC, la vecchia loro DC. Sono i figli. Vabbè. Però il PC è fuori. Berlusconi al governo, dopo tante cose, la gente preferisce Berlusconi, non ha capito. Se quello lì adesso dice a Limo. Solo per dire la lingua, perché non ti risolve la moglie che da 100.000 ragioni di età dicetti che distribuivo l'IMO. Hai capito, Parenzo? Allora, allora capito, togli i soldi alla moglie, no? 100.000 ragioni, e comincia a darli. Ma di che cosa sta lui dicetti che cacciava di tasca sua, vabbè, e adesso... anticipava, non perché non è ma di che cosa parla? Sta parlando dei soldi, dei soldi che Berlusconi deve dare alla moglie. Vabbè, 100.000. Ma ho sentito, ma, di che, ma sarà meglio sentire una riflessione di Cacciari sul sistema dei partiti in crisi? Intanto sentiamo il traffico, noi, intanto sentiamo il traffico, non ci rompere i coglioni con sta riflessione dei partiti in crisi, eh? Traffico. La Zanzara. Dottore, la parola, dottore, ho l'occasione di dirvi questo, fatemelo dire. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Passa in blanco. Oh, devi chiedere scusa, Parenzo, a Corona per quello che hai detto. Chiedi scusa per quello che hai detto. L'hai definito miliardario, l'hai definito milionario, no, miliardario. Ma di giocare con me con le parole. Ho era un modo di dire, per dire che è uno scrittore di successo che ha guadagnato meritatamente tanti soldi, molti soldi. Da scrittore di successo. Allora, senti, a Parenzo, tu che sei solo apparenza. Intanto dovresti lasciare Cruciani perché lui la prima donna, tu fai solo il servetto. Comunque, c'è una canzone com'è? A Trieste che dice la mula di Parenzo, ecco, l'ha messo no. Su bottega, certo. E tutto la vendeva, eccetera. Cioè, allora io l'asino di Parenzo riserva in eccola. Una radio, eccola. Chiuso come un armadio, lascia parlare Cruciani, per favore. L'ha messo su bottega. Lascia parlare Cruciani, asino. Mauro Corona, un mito, una leggenda, scrittore, confessioni ultime. Hai piantato la carotina oggi? Dai, vai, vai, vai, vai, io vorrei capire da Corona perché pensa che l'amore sia finito, che non c'è più. Ma senti, ehi, sei Cruciani o Parenzo? Cruciani. Allora ascolta, Cruciani. No, quando una persona ti dice ti amo o ti voglio bene, sarebbe più dignitoso e decoroso, e ti rende la vita un lavoro usurante. Allora, quando dite ti amo, mettetevi davanti allo specchio, allora lo dite davvero la verità, la dite a voi stessi. Anch'io vale anche per me. No, ma io la penso come lei, cioè, ecco. Non è che la penso sì, come ti dicono, cioè, ti non amo, esiste l'anno della mano, cagate, e poi la vita un inferno. Basta, non ditemi più nessuno ti amo a me, me lo dico da solo. Ha ragione lui, Parenzo. Ma è di un egoismo e di un egocentrismo. Non è egoismo, è Parenzo, l'amore vuol dire silenzio, sacrificio, accettazione totale. Che vuole insegnarmi tu a dire svegliati invece, ma tu magari ma tu magari stai bene anche cornuto, allora ti può andare bene amare, ama tu, ti do anche il mio, è un amore a scorsoio, nessuno ti ama. Cioè l'amore non esiste più per te? No, esiste falso a scorsoio, con ricevuta di ritorno, io ti amo ma devi fare così, non devi fare così, non devi fare No, ma quanto ti capisco, guarda. Ma l'amore guarda. È un compromesso continuo con le persone a cui vuoi bene, per le persone a cui vuoi bene, è ovvio, no? Non ne voglio bene a Parenzo, te lo lascio a te il bene. Ma scusami, genio della terra, se tu vuoi bene. Che compromesso? Se tu ami un'altra persona. Un po' di tranquillità. Ma scusami. Un'altra persona, sarai pronto a farmi compromessi anziché a farmi sempre i capi tuoi, no? Tagliatela dai vocabolari con la lametta. Ah no, ma adesso c'è quello elettronico, vocabolario. Ho detto che se tu ami un'altra persona, sarai pronto a fare dei compromessi per farla felice? O pensi solo a te stesso e ai capi tuoi? Ma devo anche essere ricambiato, benedetto figliolo! Bisogna che essere ricambiati. Insomma, se vabbè, questo è ovvio, se uno non dà amore vuol dire che non lo riceve neanche, no? Quello è evidente. No, ma si può barcamenarcela, ma non vi è vietato dire ti amo. Basta, dopo ci se la si divacchia, si prova, si tenta. Aspetta un attimo, aspetta Mauro. Tu volevo sentire il dottor Cacciari, ma sto spendendo cose inutili. Chi è questo? Un ascoltatore che ancora stava parlando. Corona, ma il governo PD-PDL ti piace? No, ma non perché voglio far polemica. Ma come fanno a durare? Già combattuti, già si picchiano sull'IMU. No, non dura, ci provano, ma non dura. Non dura. Ma tu che sei... non dura perché sono posizioni... Allora, bisogna essere talmente intelligenti di applicare se stessi, cercare, almeno nell'estrema necessità, siamo in pericolo, eliminare le posizioni, cedere un po' uno, cedere un po' l'altro, invece uno dice no, Brunetta, se non si ritorna lì, il governo cadrà entro una settimana di sto passo. Beh, come segui? Segui bene l'attualità. C'è l'asino di Parenzo che crede che io viva sugli alberi. Ma hai sentito il governatore della tua regione, Zaia, che ha detto che il ministro Chienghe deve andare a visitare le vittime dello stupro del Ganese là in Veneto, come se fosse in qualche modo responsabile indirettamente perché africana, di origine africana? Quando uno non ha idee, le spara, no? Sì. L'unica idea che abbiamo è quella di rubare le idee altrui. Ecco, questa è una pratica italianissima. Ma invece che di Casaia che venga qui, io vorrei, ma adesso è una roba seria, che venga qui quest'anno che ricorre il 50° anniversario del genocidio di 2000 persone col Vajont e lo Stato, che venga qui un qualche ministro, anche se dava, questa adesso voglio essere serio, 50 anni. Io vorrei, ma tutta la gente di Erto vorrebbe che venga sul Papa, questo buona persona e dolce, a dire una messa per i morti del Vajont. Verrà. E accendere una candela, noi gli facciamo un po' di polenta, camoscio, oppure anche polenta e uova, perché se dico camoscio gli animalisti insorgono, qui non si può più dire una sega, non si può più dire niente. Scusami Mauro, ma qualcuno inneggia in qualche manifestazione del 1° maggio a quello che ha sparato al carabinieri? Questa qui è una roba ignobile. Allora quello che non mi si venga a dire che è stata la società, che è stato i politici, quello lì è un pazzo, quello lì è un arrabbiato, un cane che, non sapendo che tutti i suoi fallimenti, li ha preso la scuola, come quello che fece saltare la scuola delle ragazzine, nessuno, con la bombola del gas, quello lì, e inutile che mi dice l'aveva con la società, quello lì ce l'aveva con le ragazzine, col fiore di queste 17enni. Quello lì, ecco, non troviamo scuse. Bravo. Però dall'altra parte non è giusto neanche che le forze contrarie dicano che Grillo, compagnia bella, ha sobbillato. Allora il mio amico Riccio dovrebbe fare una strage ogni giorno. Il tuo amico? Il mio amico Riccio Proppi, che è alla disperata, che non ha un lavoro e una dignità da vendere. Appunto. Anche da Parenzo. Sì. Dovrebbe fare una strage ogni giorno. Appunto. Sono dei folli che riversano i loro fallimenti dando la colpa agli altri. Ho capito. Perché non gli dici di coltivare la terra? A chi? Perché non gli dici di coltivare la terra, le patate, le zucchine? Si coltiverà l'orto in galera, spero. Ecco. E niente che venga a dire l'avvocato non voleva sparare, ma che sei, ma ci stanno, ti pigliano per il culo. Bravo, grazie, ciao Mauro, a presto, ciao. Buona ciao. Vita a voi, ciao, e anche all'apparenza lì. Sì, ciao. Stefano da Roma, Stefano. Vabbè, chiudiamo, dai, che qui è tardi, devo andare alla scuola. Aspetta, manca un minuto, non rompere le palle, Stefano. Chiudiamo un attimo, che c'è Cacciari qui. Stefano, ma chi se ne frega, lo sentiamo. Faccia tempo a dirti quello che te lo dico. Sì. Faccia tempo. Allora, più che una zanzarata, fa diventare uno scarafaggio sta trasmissione, scusami sì. tanto. Sì, intanto allora, primo. Chi ti ha autorizzato a darmi del tu? No, vabbè. Del tu non è educazione o maleducazione. Vabbè, allora è diventato è diventato uno scarafaggio, allora? Vabbè, e allora porta un po' più di rispetto per le idee dell'altri. Voglio dire, se uno ti dice una cosa, stalla a sentire. Ma l'ho lasciato parlare, quello di Napoli, l'ho lasciato parlare 6-7 minuti, ma che vuoi? Ma l'hai preso in giro, Ah, scusami, scusa. Prego. Scusa, perdona. Ah, adesso mi date tu. Perdonami. Mettiamoci del tuo o del lei? Oh. Mi perdoni. Ha sbroccato, che c'hai, ha sbroccato. Che ha fatto? Come? Non capite niente. A me sembra che... No, c'è la partita, ho messo, altro che Cacciari. Va bene, Stefano, che dovevi aggiungere? No, niente, devo aggiungere da star senti più tante volte, perché sennò questa trasmissione diventa un monologo. Era tanto ma Caruccia. Ma quale monologo? Ma se la gente parla, ma che dici? Parla solo lei. Ma quando mai? Ma non è vero. Parla Stefano, solo lei, accetta la gente. Stefano da Torino, buonasera. Stefano da Torino. Stefano? Dimmi. Stefano? Allora io volevo dirti che io seguirò il tuo consiglio fra due mesi e una settimana più o meno, perché cioè? Io oramai sono più morto che vivo, perché non ammetto che non lavoro per... E allora qual è il consiglio che ho dato io? Qual è il consiglio? Io non farò mai del male a nessuno e mi toglierò io la vita. Ma io non ho detto che lei si deve suicidare. Ma io non ho detto che lei... Ma chi lo dice? Non è come me, perché se lei viene qua a Torino a vedere la gente che sta morendo veramente di fame. Va bene, parliamo domani, Stefano. Devo chiudere. A domani 18:30, sempre qui in diretta. Dottore, la parola. Dottore, ho l'occasione di dirvi questo. Fatemelo dire. Stai stitico. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.